a dicembre. Il mio nome è Willy Wonka. Sono una sorta di mago e cioccolatiere. Scopri come Willy è diventato Wonka. Ho un'idea. Da dove cominciamo? Dal cioccolato, ovviamente. Dal regista di Paddington. È buono. E dai produttori di Harry Potter. Troppo buono. Tutte le cose belle a questo mondo sono cominciate con un sogno. Perciò tu tieniti stretto al tuo. È tempo di cambiare il mondo. Timothée Chalamet è Wonka. Dal 14 dicembre al cinema. Şimdi Dani'nin önünde boşluk. Dani stoperden çıktı. Sağ çizgiye doğru hareketlendi. Snyder ve gol! Gol! Muhteşem bir gol! Wesley Snyder sezona bomba gibi geliyor Hollandalı. Ganes, o torcedor de Galo, ali é Damião. Bata pra dentro, garoto. Nessa pro gol, pro gol, pro gol, pro gol, pro gol, pro gol, pro gol! Збірної Вірменії. Удар! І просто ідеально! Просто шедеврально! Арасос Біліс як рукою кладе. Кальмаро! Він контроп'яне per Totti! Dentro il pallone per Girardino! Girardino la può tenere anche vicino alla bandierina! Cerca il 1-1! Girardino! Dentro del Piero! Del Piero! Carissimi amici, con questa fantastica intro, ovviamente è archeologia videoludica, sono Simone Pizzi e con me, solidari, zitti zitti, buoni buoni, c'è Gianluca Santilio. Io ho ancora la pelle d'oca dopo la bellissima introduzione, però eccomi qua per una nuova avventura, il mio primo speciale, quindi speriamo vedi, bene. Vedi che non ho detto Mused perché me lo sono scordato, Ah, okay, lo volevo bypassare in realtà, però poi va bene. In realtà abbiamo fatto questa introduzione per farvi capire, insomma, in maniera maniera molto... Hai triplato il problema praticamente. Esatto. E l'introduzione dicevo appunto per farvi capire insomma di che cosa parliamo. Parliamo della storia dei videogiochi di calcio, sebbene un argomento del genere, ne approfitto per salutarli, è stato già trattato anche in Retrocast, quindi il caro Stefano Biggio e compagnia bella, però noi cerchiamo di fare come al solito nel nostro stile una cosa un po' più organica e storiografica, diciamo così. Prima di iniziare però vi do intanto i riferimenti, che sono il nostro sito, che è www.archeologiavideoludica.net e oldgamesitalia.net, che è diventato poi la nostra seconda casa e piano piano in questa fase di transizione poi diventerà la nostra prima casa, perché praticamente Old Games Italia sta strutturando una pagina che è completamente dedicata ai nostri podcast, e da lì in poi insomma, quando poi sarà tutto operativo, diventerà veramente la nostra casa finale. At Videoludica invece è il nostro Twitter, dove potete parlare tranquillamente col professor Jones, che ogni tanto, se si ricorda, vi risponde. Ci trovate su Facebook Archeologia Videoludica, ma anche su Google Plus, e la nostra mail è archeologiavideoludica@gmail.com. Detto questo, do anche il benvenuto e faccio un saluto, diciamo, di venuta alla luce, di benvenuto al mondo anche all'Occhio del Beholder, che è il nostro ennesimo podcast a sfondo videoludico completamente dedicato ai giochi di ruolo, ideato e condotto da Giuseppe Saso, insomma, che è stata registrata la prima puntata, che uscirà il 19/11, come già è girato, insomma, con piccoli banner e roba del genere. Allora, sono curiosissimo. Sì, sì, può essere una cosa che, anzi può essere, una cosa molto, certo, molto carina. Allora, parliamo di calcio, di giochi di calcio. Questo è uno speciale che Archeologia Videoludica, io e Gianluca abbiamo pensato, io ho pensato, poi Gianluca invece ha collaborato, ha fatto il più, perché diciamoci la verità, insomma. No, ed è praticamente uno speciale diviso in tre parti. Tre parti significa tre mini puntate, tre puntate brevi, diciamo così, che ci racconteranno insomma la storia del calcio, a partire da quando i palloni erano delle cose quadrate, fino ad arrivare ovviamente al gioco di calcio sull'home computer, e poi piano piano arrivare anche all'era della grafica tridimensionale e insomma al fotorealismo dei giorni, non diciamo dei giorni d'oggi, ma insomma fino a che insomma poi ovviamente il gioco del calcio è diventato completamente un'altra cosa. Però ovviamente in questa prima parte noi abbiamo fatto una suddivisione e abbiamo posto un limite, che poi ovviamente Gianluca ci racconterà. Però iniziamo con il primo sottocapitolo, quando insomma denominato, l'abbiamo chiamato, il calcio una simulazione rigorosa, rognosa, scusa, hai ragione. Sì, il problema è che è vero che lo sport è stato uno dei fari che ha condotto la evoluzione del videogioco addirittura dalla nascita, e è legato adesso, perché Tennis for Two è stato uno dei primi esempi videoludici, però le discipline sportive in realtà sono molto molto complicate da simulare. Il tennis magari un po' a parte, perché chiaramente lo si può rendere estremamente elementare, tipo come è stato fatto con Pong, però quando si va avanti cercando di simulare qualcosa di più complesso come il calcio, i problemi si moltiplicano. Quali sono fondamentalmente i problemi della simulazione di calcio? Innanzitutto tecnici, perché chiaramente ci sono da simulare tanti sprites. Il calcio è composto da 11 giocatori per squadra, quindi si tratta di 22 sprite. Chi mastica un po' di tecnica e sa quanti sprite potevano gestire le prime console da gioco, si capisce che insomma si rende conto perfettamente perché i primi giochi di calcio c'erano tre giocatori, quadrettini, esatto, tre giocatori a squadra, insomma, esattamente, quindi. Esattamente, e poi anche le dimensioni del campo, per dire, perché il campo ovviamente può essere anche ridotto ad una singola schermata, c'è chi l'ha fatto, ma è una cosa estremamente triste. Molto meglio creare un campo che scorre, quindi avere lo scrolling. Lo scrolling è un'altra enorme grana per le prime macchine da gioco, perché non avevano quello che si chiamava lo scrolling hardware. Quindi, senza voler bestemmiare, per poi far arrabbiare i conduttori di archeologia informatica, diciamo che l'hardware scrolling è arrivato con la terza generazione di console, e quindi prima lo schermo poteva scorrere, ma si faceva semplicemente simulando lo scorrimento con degli sprite che si muovevano invece di far muovere il fondale. E chiaramente se tu hai bisogno di 22 sprites per i giocatori comincia a essere un problema anche questo. Certo. Quindi poi, ultima cosa da dire, c'era bisogno di un'intelligenza artificiale non soltanto legata a un singolo elemento, perché il calcio è un gioco di squadra, quindi le squadre dovevano reagire dinamicamente alle varie situazioni di gioco. L'Atari VCS, che abbiamo tutti amato, ma che aveva una scheda tecnica piuttosto modesta, aveva 128 bytes di RAM. Chiaramente gestire qualche cosa di così complicato con così poca memoria è praticamente impossibile, possiamo dire che è impossibile. Quindi, tra l'altro, bisogna dire anche che il calcio non è uno sport americano. Se noi andiamo a vedere cosa è stata la storia dei videogiochi negli anni 70, quando sono nati i primi arcade, i primi giochi su computer, era qualcosa di guidato soprattutto dagli americani, un po' anche dai giapponesi, ma ancora soprattutto Stati Uniti. Certo. E quindi non aveva la priorità, semplicemente. Quindi ci siamo sebbene i giochi di sport in qualche maniera hanno, come hai detto te anche all'inizio, soprattutto magari gli sport più semplici da riprodurre, diciamo, hanno comunque spinto molto anche il videogioco. Io aggiungerei anche il fatto che oltre a un discorso di intelligenza artificiale, di reazione dinamica, roba del genere, c'era anche un fatto di regolamento, di regolamentazione del gioco stesso, che era chiaramente ridotto completamente all'osso. Esatto. Proprio perché comunque era il gioco stesso che era ridotto completamente all'osso. Diciamo che ciò nonostante, ovviamente per chi ha l'età mia e ha visto anche i primi giochi, diciamo videogiochi da tavolo in bianco e nero o a malapena a colori, a malapena abbozzati o roba del genere, diciamo che comunque per certi versi era comunque affascinante uguale. Da ripensarci oggi, chiaramente... Vabbè, ci sono state. Poi la cosa bella del videogioco di calcio in generale è che anche questo è stato uno di quei settori che ha creato, diciamo, il cosiddetta guerra da fanboy, no? Nel senso, la separazione tra chi amava una cosa piuttosto che un'altra, o chi era più fortunato aveva quello piuttosto che quell'altro. E se lo coccolava. Esatto. Quindi, e che poi alla fine, per arrivare a delle simulazioni realmente realistiche, alla fine ci hanno messo 40 anni, diciamo, c'è pure. Sì, è già. Oggi ancora cominciamo a criticare ad ogni uscita il nuovo FIFA, il nuovo PES, insomma, non, comunque è qualcosa di molto in evoluzione ancora oggi, perché c'è ancora molto da limare. Allora, poi ci siamo posti una domanda, che è la domanda che probabilmente per certi versi molti di noi si sono posti allora, o forse si porrebbero tanti ragazzi di oggi se si trovassero di fronte, che ne so, al Soccer per l'Odyssey o quello del VCS o quello del VIC-20, e diceva: che sto giocando? Perché c'è stato un momento in cui il calcio era veramente, come dici tu, una questione di fiducia. Sì, assolutamente. E ci sono poi vari gradi di fiducia, potremmo dire. Quello più famoso è sicuramente quello del VCS, ma come primi esempi, ma partiamo un attimo da più lontano, per cominciare dall'Odyssey, perché l'Odyssey della Magnavox, la mitica Magnavox che ha ispirato uno dei titoli più belli della storia di archeologia videoludica, aveva il suo gioco di calcio. Il Magnavox, lo sappiamo, non era una vera e propria console a giochi intercambiabili, aveva già tutto dentro, le cartucce erano dei jumper, una combinazione di jumper che davano determinate combinazioni di gioco, e ne veniva fuori il calcio piuttosto che il football americano e così in particolare via. Ricordiamo, non aveva nessun tipo di grafica reale, cioè praticamente no. C'erano delle barrette, delle barre o dei quadrati o delle luci che comunque si muovevano su schermo, e se non fosse per i mitici layer, per gli artifici che utilizzavano, sarebbe stato difficile capire anche cosa stavi facendo, insomma. Ma purtroppo nel caso del calcio era difficile uguale. Era ugualmente difficile, perché è stato anche sfortunato, diciamo, perché era nato come football americano. Questa cartuccia, diciamo cartuccia, non esiste infatti in America, perché è stata inserita soltanto in alcune edizioni europee dell'Odyssey. E praticamente già il football americano per l'Odyssey era un grandissimo casino, perché era una sorta di mix tra gioco da tavolo e gioco da e videogioco, nel senso che bisognava impostare le barrette a seconda di quello che succedeva sul tavolo, quindi non era esattamente intuitivo, e devo dire la verità, si trova pochissimo materiale a proposito su internet, il che lascia pensare che non fosse poi tanto amato, comunque non vi è avuto tanto successo. E il calcio è stato semplicemente una modifica a quel gioco di football. Quindi immaginiamoci il calcio derivato da un gioco di football, esatto, per Odyssey, che era mezzo da tavolo, era veramente distantissimo dal calcio che possiamo immaginare oggi. Quindi, che poi tra l'altro tu in questo primo link, dove che ovviamente poi il link di cui faremo menzione li troverete ovviamente nelle note dell'episodio, più altre cose che magari aggiungeremo, c'è questo layer, appunto questa plastica trasparente colorata, sì, che come sappiamo si appiccicava al televisore, e a guardarlo così non riesco proprio a immaginare proprio neanche con uno sforzo di creatività riesco a immaginare come potesse funzionare. Ma poi guarda che se ci fai caso ci sono delle barre nere attorno, sì, ai giocatori. Se tu colleghi quelle barre nere hai un campo da football, quindi praticamente le hanno semplicemente interrotte per simulare l'area di gioco e la distanza tra i calciatori. Ma penso che fosse veramente in realtà qualche cosa di... Sì, anche lo schieramento dei giocatori comunque. Da calcio balilla. Sì, ma nel senso che verso l'attacco maggiore quantità di giocatori e verso la difesa minore, che è completamente l'inverso del concetto del gioco del calcio. C'era Zeman su tutte e due le panchine. Esatto. Sì, ma qui Zeman è scatenato. Poi tra l'altro quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vabbè, quello ci stiamo. Forse ci stiamo. È l'unica cosa, insomma, che ci sta. Sì. E ovviamente non si trovano video di una cosa del genere. Insomma. Purtroppo no, almeno purtroppo io non sono riuscito a trovarle su YouTube. Allora, se qualcuno c'ha l'Odyssey e c'ha questo gioco, per sbaglio, qualsiasi cosa, ancora magari facesse un video anche con il cellulare, qualsiasi cosa, roba genere, ce lo manda archeologiavideoludica@gmail.com, così insomma ci rendiamo conto e facciamo un'ennesima opera di conservazione e di divulgazione storica. E questo è uno. E infatti... Sì, poi possiamo muoverci uno step avanti, diciamo, non tanto dal punto di vista temporale, ma dal punto di vista della credibilità della simulazione, diciamo. Mamma perché mia. Andiamo a quello del Vic 20. Poi non so se tu vuoi raccontarci un aneddoto sul Vic 20. So che... Allora, quando me l'hanno regalato? No, vabbè, dai, meglio di no. Comunque, c'è no, però una cosa la dico, aspetta, sì, aspetta, vai, tu finisci di raccontare e poi dopo la dico. Perfetto. E questo calcio del Vic 20, chiamato semplicemente soccer anche questa volta, è uno di quei rari e molto infelici giochi a schermata fissa. Un gioco di calcio a schermata fissa è già tragico di suo, questo addirittura la grandissima idea di fare anche i giocatori fissi. In pratica non possiamo muovere il nostro calciatore di qua e di là, abbiamo semplicemente una squadra schierata con... che è rappresentata da pixel fondamentalmente o poco più, con questa palla che si muove intorno al campo e noi possiamo semplicemente indirizzarla quando passa dalle nostre parti, diciamo. Quindi il Vic 20 chiaramente era una macchina con delle limitazioni molto, molto importanti, secondo me è stato fatto molto meno di quello che era possibile ottenere da un Vic 20 con questo videogioco, però non vale la pena approfondirlo, è giusto un esempio di situazione intermedia. Non siamo all'Odyssey, che è semplicemente un calcio veramente finto, veramente inesistente. Qui ci muoviamo un po' di più verso quello che somiglia al calcio, ma ancora non ci siamo precisamente. Beh sì, ricorda molto un gioco di calcio che avevo io, però di quei giochi elettronici, quindi sì, non proprio un videogioco, che praticamente ovviamente anche lì i giocatori chiaramente erano fissi e la palla avanzava perché tu potevi utilizzare tre opzioni, destra, sinistra o avanti. E se il giocatore dall'altra parte intuiva in quale direzione o quale dei tre pulsanti tu stavi spingendo, la palla passava a lui e sarebbe avanzato lui piuttosto, e ovviamente tu avresti dovuto fare un po' la stessa cosa. Diciamo che il concetto è lo stesso, e comunque in proporzione a quelli che sono e che erano i limiti del VIC 20, che ricordiamo non c'erano neanche gli sprite, infatti questi sì, sono tutti codici ASCII, infatti è tutto ASCII, insomma ci può anche stare. Ho detto già varie volte che quando io comprai il VIC 20, mi ricordo che c'era in Italia una pubblicità che era associava il VIC 20 e il Commodore 64 come fossero due modelli praticamente similari, e tra le immagini che facevano vedere nella pubblicità c'era il famoso calcio di Andrew Spencer, di cui parleremo dopo, e quindi io ero convinto che questo gioco ci fosse anche nel VIC 20, invece in realtà c'era soltanto questo, di cui io ne sentii soltanto parlare una volta, e per me pensavo che fosse un'agenda metropolitana, invece grazie a Gianluca ho scoperto insomma che questo, e forse era meglio tenerlo come leggenda, che se era leggenda era pure meglio, certo. Infatti, e quindi arriviamo al gioco più famoso, diciamo, della prima tornata di protocalci, se possiamo chiamarlo in questa maniera. Sì, possiamo chiamare così. Ecco, benissimo. E arriva dalla Atari. L'Atari era la dominatrice incontrastata della seconda generazione, se così vogliamo chiamarla, di videogiochi. Molte cose sono nate lì, il calcio è arrivato per primo lì ed era estremamente deludente, perché non era calcio praticamente. Sfido qualunque persona a guardare una foto di Atari Soccer, noto poi anche come Pele Soccer, e dire ah, questo è un gioco di calcio. Non è possibile, perché questo videogioco era a scorrimento verticale, aveva tutte le cose che in teoria potevano essere utili per un gioco di calcio, però fatte veramente nella maniera più elementare possibile. Innanzitutto gli sprite, i calciatori, ce n'erano soltanto 3 per squadra. Sì, esatto. E questo poteva anche essere comprensibile, diciamo ci sono dei problemi a gestire gli sprite e così via. La cosa veramente assurda è che questi 3 sprite sono come collegate a distanza tra di loro, non possono muoversi, avanzano tutti contemporaneamente, sempre alla stessa, sempre equidistanti. Esatto. È come se fosse uno sprite unico, fondamentalmente. Esatto. Soltanto che cioè con uno avanti e 2 di dietro. Io questo gioco lo conosco benissimo, cioè io veramente ci ho passato. Per me era il gioco di calcio questo, quindi rendetevi conto. L'immaginazione galoppava davvero per quei tempi. Il portiere, tra l'altro, stava dentro la porta, non stava fuori. Sì, sì, sì. E tra l'altro, sulle porte c'è da dire che erano ciò che stabiliva il livello di difficoltà. In pratica, quando uno cambiava, c'erano vari tipi di partita, come sempre, varie variazioni nei titoli VCS, e qui la difficoltà era semplicemente la grandezza della porta. Facile, porta larga; difficile, porta stretta. Fine. Veramente pochissimo. E questi calciatori si muovevano in questo campo con 2 frame di animazione, praticamente. C'era la posizione di riposo, che era la barretta, senza altri dettagli, e l'avanzamento, il passo, diciamo, la corsa, con un leggero spostamento di pixel verso una qualche direzione, avanti o dietro. Quindi veramente grafica ultra elementare. Sì, sì. E c'erano anche dei problemi poi di, come dicevamo prima, di regole. Addirittura in questo videogioco non è implementata la rimessa laterale o la rimessa dal fondo, non ci sono la palla quando tocca il bordo dello schermo semplicemente rimbalza. Sì, in linea di massima sì, non mi ricordo tra le varie selezioni, perché come sapete i giochi della Atari 2006 poi dopo avevano il selettore, perché all'interno della stessa cartuccia c'era lo stesso gioco con 50 modalità diverse, fondamentalmente erano la stessa, soltanto che reiterate in varie maniere. Non so se in una delle opzioni c'era se non altro la rimessa dal fondo, ma quasi mai comunque adesso non me lo ricordo. Sì, vabbè, cioè nel senso, comunque considerate che questo era il gioco, che era un gioco che tra l'altro c'aveva anche forse dei bug, forse è una parola un po' grande, però c'erano alcune posizioni, cioè se la palla andava a finire in una determinata posizione verso l'angolo, nessuna delle due squadre poteva più prenderla, perché come abbiamo detto erano, in realtà ci sono questi giocatori a triangolo, sia di una squadra che di un'altra, soltanto ovviamente in posizione speculare, e che si affrontano danzandosi intorno, e soltanto c'era una posizione in cui cui andava a finire la palla che nessuno poteva poi più riprenderla, quindi insomma capitava rarissimamente, però capitava, insomma. Non ci stava geometricamente il c'era, esatto, c'era qualcosa che non impediva a nessuno, a entrambe le squadre di poter toccare il pallone. Adesso, vabbè, una cosa carina secondo me che vale, certo, una cosa carina che secondo me vale la pena ricordare di Pelé Soccer, o Atari Soccer come vogliamo, Championship Soccer anche come vogliamo chiamarlo, era il fuoco d'artificio dopo il gol. Sì, sì, sì. Questa era una cosa secondo me bellissima, perché in tutto questo minimalismo estremo, dopo il gol c'era la sequenza di festeggiamento, c'erano dei fuochi d'artificio. Tra l'altro io non ricordo altri giochi con i fuochi d'artificio dopo il gol, quindi diciamo una grandissima introduzione dal punto di vista dello spettacolo. Beh, era un modo per spezzare, anche perché la maggior parte dei giochi dell'epoca, quando segnavi, avevi segnato, basta, palla al centro e sì, si ripartiva. Perfetto, questi sono i tre, insomma, diciamo, appunto, escludendo insomma il escludendo il Pong, perché anche il Pong la versione di Pong per la Atari 2000, per la Atari 2006, nelle varie selezioni in realtà c'era una versione che era paragonabile al calcio, erano sempre le stecchette, soltanto che invece di mandarlo direttamente solo a fondo campo lo dovevi fare entrare all'interno di una porta, quindi era un po' più articolato, diciamo, perché sappiamo appunto la Atari 2006 c'aveva questa cosa che nelle cartucce tu potevi selezionare non so quanti modalità di gioco. Sì, tantissimo. E quindi vabbè, questa era un po' la peculiarità. Questi però sono i prototipi, diciamo, i capisaldi, i punti di partenza di quello che è stato il videogioco di calcio, soprattutto a livello domestico, no? Giusto, Gianluca? Sì, questo è per quanto riguarda le console. Per quanto riguarda il resto, secondo me vale la pena approfondirlo in separata serie, esatto. Anche perché poi ci sarà una orgia di titoli giapponesi veramente gustosi. Esatto. E comunque ne vorrei citare soltanto uno di coin-op americano, quindi magari ci teniamo lontani dal discorso che faremo in un'altra puntata, che è Atari Soccer, che è praticamente il primo videogioco arcade di calcio. Ed è un po' triste da vedere sulle prime, perché è in bianco e nero. In realtà è un gioco abbastanza dignitoso, perché ha uno scrolling ottenuto con dei vari trucchetti, non proprio uno scrolling hardware, ma comunque accettabile. Ed è, questa è una cosa molto interessante, programmato dallo stesso uomo dietro Missile Command e Tempest, che si chiama Dave Teurer, insomma un po' difficile da pronunciare quello come lì. Nome, quello là, che era un genio di game designer a mio avviso, e si nota anche in questo videogioco, perché oltre ad essere fatto generalmente bene ha una regola che veramente non ci aspetteremmo: il fuorigioco. Era un gioco di calcio, sì, con giocatori, con squadre 3 contro 3, ma aveva una regola per il fuorigioco, e soprattutto aveva anche un compagno di squadra che godeva di un'intelligenza artificiale piuttosto evoluta. Potevi fare degli scambi, ti mandava in profondità. Io sinceramente l'ho scoperto a questo livello preparando questo speciale per archeologia videoludica, e sono rimasto sorpreso da questo gioco, veramente molto migliore di quello che si penserebbe. Non se l'è filato quasi nessuno, purtroppo non se ne sente molto parlare, forse anche perché, anche in questo caso perché era americano, e quindi tutti i giochi americani, non di sport americani, hanno avuto meno risonanza, ma è veramente molto interessante. Allora, anche qui c'era il discorso della rimbalzella. Sì. Perché non c'erano chiaramente falli laterali, non c'erano, ma era anche un modo per rendere anche più ludica, insomma, una cosa che magari per gli americani sarebbe stato sempre difficile anche da assimilare. Sì. E era, come ha detto, in bianco e nero, c'era anche un abbozzo di grafica, diciamo così, sebbene la palla insomma era un po', un po' più macchinosa da un certo punto di vista, ma addirittura la alzavi, cioè nel senso c'era la palla si sollevava, c'era il pallonetto, diciamo così, quindi immaginate, immaginate per allora insomma quello che potesse essere. E io questo gioco me lo ricordo perché c'era su una nave dove sono stato io, non mi ricordo neanche dove stavo andando, ma me lo ricordo, e mi ricordo che anche qui insomma soldini ne abbiamo spesi abbastanza, fino a che ovviamente poi dopo mio padre si è adirato non mi ha fatto più giocare. Io vi racconto sempre le cose tristi nella mia vita da videogiocatore. Non c'è lieto fine. No, no, assolutamente. Va bene, parlando di questo, poi abbiamo detto magari degli arcade, insomma, ne parleremo in separata sede, perché insomma facciamo un piccolo step avanti nell'evoluzione dei giochi di ruolo, dove appunto a un certo punto all'improvviso gli sprite informi diventano dei calciatori. Sì, cominciano a somigliarci, Sì, e, il primo gioco che arriva tra l'altro quasi in contemporanea, diciamo, con quello dell'Atari VCS, e il più grande rivale per la console, che è la più grande rivale dell'Atari VCS, ovvero il Mattel Intellivision. Esatto. E chiaramente conosciamo la superiorità tecnica, non ce ne vogliono i fan di uno o dell'altra, ma la superiorità tecnica dell'Intellivision era netta, sì, sì, e si nota moltissimo con questo gioco di calcio, perché innanzitutto si chiama Nuzzle Soccer, quasi impronunciabile per noi europei, per noi italiani, ma la NASL era la lega di calcio americana del sì. tempo, e ovviamente questo gioco è di origine americana anche in questo caso, ma National American Soccer League, fantastico. Tra l'altro sfortunatissima, perché poi è sparita. E in questo videogioco troviamo finalmente delle cose veramente interessanti. Innanzitutto, a parte questi giocatori che finalmente somigliano a esseri umani, perché hanno delle animazioni, diciamo, credibili, si muovono in maniera più verosimile rispetto a quanto visto in passato, e entra anche un elemento tecnico molto importante, ovvero lo scrolling. Il campo, non soltanto i giocatori somigliano ai giocatori, ma il campo somiglia a un campo di calcio. Sì. A parte la riga tra metà campo e l'area di rigore che ricorda il Subbuteo, non si sa, esatto, non si sa perché ce l'hanno messa. Comunque. Allora, non ti vorrei dire una stupidaggine, ma potrebbe essere dovuto al fatto che in America loro usano il di rigore come già, li fanno. Sì, lì. Sì, sì, sì, ok, hai ragione. Forse, tra l'altro, mi pare che i rigori non ci siano in questo videogioco. No, non ce l'hanno neanche i fan. No. Esatto. Però, vabbè, sì, loro probabilmente ce l'hanno disegnato, perché nelle partite all'epoca, non so se è ancora così oggi, nella lega professionistica americana non potevano finire, non c'era il concetto del pareggio, come nel basket praticamente. Quindi, se finiva 1-1 la partita, praticamente facevano questo turno, diciamo, con la rincorsa da quella linea lì verso la porta, e a una certa distanza devi tirare in porta. A chi segna più gol poi ovviamente vince la partita. Allora, queste sono cose perché insomma, però vabbè, continua, scusa. No, vabbè, dicevamo che compare lo scrolling esatto. Finalmente questa cosa bellissima, e questo è il grande miracolo della tecnologia, esatto, e aumenta il coinvolgimento, però sparisce una cosa molto importante, che è l'intelligenza artificiale, perché questo videogioco è soltanto per due giocatori. Esatto. Non potevi giocare da solo, questa è una notevolissima limitazione, e chiaramente ciò alleggerisce il carico della CPU. Forse alcune cose sono state possibili anche per questa ragione, insomma c'erano meno dati da considerare, quindi si poteva dedicare la CPU ad operazioni di altro tipo. Non lo sapremo mai. Comunque questo è stato un gioco molto influente, nonostante avesse alcuni difetti, chiaramente, come i finti 11 giocatori sul campo, perché noi li vediamo al massimo 3 contro 3, in realtà potevano essere di più, perché quando un giocatore si dirigeva da una parte dello schermo compariva magicamente dall'altra. Sì, diciamo che erano gli stessi, diciamo. No, questa specie di gobala, insomma, che avevano trovato, però sì, ecco, insomma, comunque in un modo o nell'altro, se tu avevi un giocatore al lato estremo e quello stava andando verso la porta tua, tu basta facevi uscire il giocatore al lato di sinistra e ti riappariva a destra, e quindi ci avevi magicamente un difensore che prima era l'attaccante. Esatto. Insomma, era diventato un elemento strategico fondamentale nelle sfide a Nuzzle Soccer. E purtroppo questo gioco soffriva anche di una palla dall'inerzia totalmente esagerata. Sì, in pratica tu tiravi e non rallentava mai, cioè la corsa della palla terminava quando finiva il campo, praticamente in gol o fuori, quello poteva essere il suo unico destino, quindi anche rincorrere il pallone era problematico. e purtroppo giocarci significava anche fare un po' i conti con il controller dell'Intellivision, che era tanto bello per tante cose, ma doverci giocare in maniera seria un gioco d'azione, come poteva essere comunque anche un gioco di calcio, diventava complicato. Molto difficile, sì, molto difficile. Guarda, allora io ti dico così al volo, io sono, come ho detto tante volte, ho avuto la Atari 2006 e per me è stata la macchina per eccellenza, però c'era al mare dove andavo io, c'erano sti ragazzi che avevano l'Intellivision e c'era sto gioco di calcio che, allora voi se lo guardate adesso, io mi rivolgo soprattutto a quelli più giovani e vedono sti ragnetti con sti 4 pixel in croce, dicono ma che è sta gialli e viola, che è sta zozzeria. Invece, e c'era quel termine che noi utilizzavamo allora, proprio, cioè, lo guardavamo e dicevamo cazzo è realistico, cioè sembrava vero, capito? Per noi quello era il top della grafica, la cosa più simile al fotorealismo era quella, cioè nel senso oggi chiaramente non ce lo immaginiamo neanche, però era così, cioè nel senso se c'è una cosa che ho invidiato all'Intellivision, nonostante che sapevo che era comunque una macchina superiore, era sto gioco qua, anche se poi l'Atari successivamente ne uscì con un gioco più o meno similare, ma insomma sempre i suoi oggettivi limiti ce li aveva. E sì, facciamo caso su una cosa, gli sprite dell'Intellivision soprattutto nei giochi sportivi erano sempre divisi a metà, cioè nel senso c'è il busto dalle gambe che ricordavano molto i personaggini stilizzati dei simboli olimpici che si utilizzavano una volta, non so se tu è vero, te lo ricordi, è vero, è vero. Questa sì, cosa sì, mi ha sempre fatto sempre notata. Il titolo al quale ti riferivi tra l'altro era Real Sport Soccer per console VCS, ma anche poi per i computer della Atari, sempre, che era un gioco insomma era meglio forse di quello che abbiamo visto prima, ma non comunque non era un granché. La grafica era molto migliore perché c'erano questi giocatori che si muovevano come i giocatori, anche il suono era accettabile e c'era una cosa abbastanza importante che poi è stata mantenuta nell'evoluzione del gioco di calcio, e c'è una velocità differente del giocatore quando era con la palla e quando era senza palla. Quindi questo permetteva ai tuoi avversari di rimontare, di rubartela e così via. Purtroppo anche in questo caso c'è bisogno di fare una rinuncia, e la rinuncia è clamorosa perché sparisce il portiere. Quindi non ricordo, sì. Quindi diventa un gioco di calcio senza portieri. Questo soltanto sul VCS, poi sugli Atari 8-bit alla fine era un gioco diverso, anche se aveva lo stesso nome, comunque non era un E se lo considerate, andandolo a vedere, ovviamente il gioco è molto più grezzo, più rozzo visivamente rispetto a quello dell'Intellivision, ma gli sprite sono sprite, cioè nel senso sono sprite. Sono finalmente, c'è anche un'animazione che tendenzialmente potrebbe essere, per quello che riguarda i giocatori, anche leggermente migliore a quello dell'Intellivision, se non fosse per il background, insomma, che invece è assolutamente monodimensionale quasi, insomma, e c'è sta cosa dei portieri volanti che ti ricordava insomma quando giocavi, quando eri ragazzino, al pallone da solo in mezzo alla strada. Esatto, è così. Facciamo giusto una velocissima citazione di un altro, di due altri videogiochi, quello per Vectrex e Zap Sucker, di cui abbiamo parlato tra l'altro nello speciale nella puntata di qualche tempo fa, che non era anche quello un granché gioco di calcio, aveva i portieri che facevano su e giù continuamente per la porta, ma era il primo che introduceva un concetto di tridimensionalità soltanto grafica, perché aveva questi videogiocatori che quando si avvicinavano verso il giocatore, c'era una visuale laterale, quindi quando si avvicinavano verso la parte bassa del campo diventavano più grandi e diventavano esageratamente più piccoli quando si allontanavano, certo. Quindi un primo abbozzo diciamo di 3D. E l'altro titolo che vorrei ricordare è 4D Sucker dell'Arcadia, dell'Emerson Arcadia, infamissima console che abbiamo trattato la puntata scorsa, che aveva questo gioco di calcio dai colori che hanno colpito Simone quando l'ha visto, e che era praticamente il primo gioco isometrico della storia, credo, a quel punto, che anche quello là non poteva essere giocato da una singola persona, dovevi giocarci per forza in due, era comunque fatto piuttosto male, poco divertente, però ecco, è il primo esempio di quel genere. Però se ci pensi, il fatto dell'isometrico è stata comunque una grande intuizione, tutto sommato, perché... Esatto, davi la tridimensionalità con due dimensioni. Esatto, perché comunque, a parte quello che era riuscito a fare in television e poi il Vectrex, chiaramente, quindi dare un minimo di prospettiva estetica al campo, in realtà con quei pochi pixel che si avevano a disposizione, l'abbiamo visto poi con Real Sport, Sport Soccer dell'Atari 2006, in realtà non era facile, insomma, riuscire a dare un certo tipo di prospettiva e magari a mantenere anche un certo tipo di estetica. Quello invece secondo me è stata un'intuizione che comunque poi negli anni è stata ripresa. Teniamo in considerazione sempre il fatto che stiamo parlando veramente dei primordi e che mi pare sia da 82 quello. Esatto, e che ciò nonostante, se non ci fossero stati questi giochi non ci sarebbero state anche tante intuizioni successivamente, quindi probabilmente è comunque quello che noi possiamo considerare un passaggio obbligato, diciamo così. Sì, peccato non essere riuscito a che non sia riuscito a trovare lo sviluppatore di quel gioco, perché chissà che poi non si è riapparso in qualche altra produzione isometrica ad anni di distanza. Chi lo sa. Magari facendo... perché purtroppo poi, come abbiamo detto anche in tante altre puntate di archeologia videoludica, il problema di allora è che non c'era ancora un vero e proprio riconoscimento per gli sviluppatori. Diciamo che le prime battaglie si fecero proprio con l'Atari 2006, dove gli sviluppatori mettevano... i programmatori. Diciamo le cose come stanno. I programmatori mettevano magari degli easter egg all'interno del gioco per dire guarda, questo gioco ho fatto io, poi fondamentalmente. Stessa cosa succedeva anche in alcune cartucce del Vectrex. Va bene, Gianluca, andiamo avanti a questo punto. Penso che siamo arrivati a un momento in cui forse arriva il primo grande capolavoro del gioco del calcio, perché finalmente appunto il gioco del calcio incomincia ad assomigliare a un gioco del calcio ed è grazie ai computer a 8 bit poi fondamentalmente. Quindi parliamo del primo International Soccer per Commodore 64, quello famoso di Andrew Spencer con tutte le varie derivanze e derivazioni, e poi ovviamente con quella che è stata la grande concorrente diciamo anche inconsapevole, perché sicuramente lo Spectrum non era nato per quello, che è appunto lo ZX Spectrum con Match Day, che sono due giochi clamorosi, cioè proprio due giochi clamorosi. Esatto. che ci abbiamo perso la vista, insomma, diciamo, da tanti di noi. Tra l'altro tu hai detto una cosa veramente giusta prima, che le persone non c'erano in passato, no? Fino a questo punto le persone si perdevano tra le case di produzione, non apparivano mai. Andrew Spencer è stato il primo che è riuscito a legare il proprio nome a un videogioco di calcio. E questo è anche videogioco sportivi, perché poi fece il basket e fece qualcos'altro, adesso non ricordo, però vabbè. Il basket lo ricordo, e tra l'altro era un titolo derivato da International Soccer, quindi sì. E tra l'altro lui fu contattato dalla Commodore. Andrew Spencer era un dipendente Commodore per la quale si occupava della produzione di videogiochi. Lui lavorava già da qualche anno per il Commodore PET, console che non aveva assolutamente alcuna vocazione ludica, eppure la Commodore cercava di proporre qualche software in questa direzione per insomma tenere forse un po' di... per accontentare una parte degli utenti. E quindi questo lavoro gli fu praticamente commissionato, perché durante un dialogo con un dirigente Commodore lui disse: guarda, io ti posso fare qualunque cosa, se vuoi ti faccio un gioco di calcio. E allora questo dirigente Commodore disse: ah, ok, facciamolo. E lui purtroppo però disse questa cosa, ma non era assolutamente un amante del calcio. Ho letto un'intervista in cui diceva che durante i suoi studi scolastici, quando c'era l'ora di sport e giocavano a calcio, lui si metteva da parte con altri nerd dell'epoca e assolutamente non voleva partecipare alle partite. Quindi quando si trovò alle prese con questo incarico era piuttosto a disagio, e gli venne in mente un videogioco che aveva visto a casa di un amico al quale non aveva neanche giocato, però l'aveva colpito in maniera straordinaria, ed era Nuzzle Soccer. Quindi quello di cui parlavamo prima, quello dell'Intellivision. Esattamente. E quindi a vederlo adesso, sapendo questa cosa, si individuano tantissimi elementi di International Soccer. Tra cui anche un piccolo difetto, quello degli sprite che compaiono dall'altra parte, anche se Andrew Spencer era stato un pochettino più furbo, si nota un pochettino meno. Ma comunque International Soccer è praticamente una rivoluzione, possiamo chiamarlo tranquillamente così, perché è un videogioco di calcio al quale all'epoca si faceva veramente fatica a trovare qualche problema, perché era molto divertente, molto bello da vedere, anche se la grafica era blocchettosa, ma era la grafica di allora comunque. Sì, la grafica di allora. Comunque c'erano tanti sprite in campo. Io per esempio sto vedendo il video adesso, sono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sono 7. Sì, esatto. Quindi, insomma, sono 7 più la palla, che ovviamente è un altro sprite. E tra l'altro, sempre su questa intervista che ho trovato sulla bellissima rivista di Retro Gamer inglese, parla anche dei problemi che ha incontrato nel dover far lavorare nella maniera giusta questi sprite. Ad ogni modo, lui riuscì a imporre alcuni paletti fondamentali dell'evoluzione del genere. International Soccer è stato il punto di riferimento per praticamente almeno 5-6 anni di storia videoludica. Innanzitutto, quello che si nota subito appena si comincia la partita è un certo gusto per lo spettacolo. Sì. I giocatori non sono semplicemente disposti in campo appena comincia la partita, no, loro escono dal tunnel degli spogliatoi e poi prendono posizione. Quando finisce la partita ritornano, quando finisce il primo tempo ritornano negli spogliatoi per poi riuscire. Andrew Spencer voleva che catturare anche un po' dello spirito televisivo, di quello che ci piace, che ci emoziona anche non soltanto durante la stessa partita, quindi anche un po' l'attesa, anche un po' questi momenti, diciamo, accessori. C'era anche il pubblico, c'era un background. Esatto, c'era il pubblico disegnato malissimo, ma c'era, e si muoveva anche c'era un gol, sì. E c'era una sequenza di premiazione alla fine quando si vinceva, e c'era una donna che premiava, quindi davvero un qualche cosa di diverso che non si era mai visto fino a quel momento. E tra l'altro, una cosa che si nota ovviamente molto meno è un bel risultato dal punto di vista della programmazione. Ora non sappiamo precisamente come funzionavano i giochi di calcio fino a quel momento, ma Andrew Spencer ha raccontato che durante la programmazione di International Soccer aveva bisogno di far capire ai giocatori controllati dal computer come muoversi. Molti avevano semplicemente evitato tutto ciò non implementando l'intelligenza artificiale, grosso modo. Lui invece si è posto un problema fondamentale: come devono comportarsi quando la palla non è ancora arrivata al punto di destinazione? Quando il pallone è in volo, come far capire ai giocatori dove dirigersi? Questo è stato il problema più grosso del suo lavoro, perché lui tra l'altro non era abituato a programmare in assembly, e International Soccer è programmato in assembly, quindi è l'aspetto sul quale ha perso più tempo, ma si nota l'ottimo lavoro svolto, anche perché International Soccer è uno dei giochi con il più bel single player tra i calcistici dei primi anni. Tu potevi tranquillamente giocarci, al massimo livello di difficoltà la CPU era veramente tosta. Sì, sì. Infatti si nota proprio da quello che se giocavi ai livelli più alti, la voglia di giocare, insomma, ti mazzuolavano per bene. Assolutamente, è vero. E purtroppo, ovviamente, anche qui siamo lontani dalla perfezione e abbiamo dei portieri scarsi. Sì, vabbè, i portieri scarsi ce l'ha ancora PES, quindi figurati. Sì, esattamente. Qui però c'aveva un difetto, che tra l'altro anche questo è multigenerazionale, nel senso che l'abbiamo visto anche in arcade molto più avanzati, ovvero il trucchetto di segnare da alcune posizioni. Sì, la mattonella, sì. Esatto, la classica mattonella, da lì ci segni sempre, e qui c'è lo stesso problema. Fra l'altro, i portieri di International Soccer sono controllati dal giocatore, che può decidere quando farli tuffare. Sì. E quindi, insomma, il problema è che il modo per farli tuffare è premendo il tasto di fuoco. Quindi a volte durante le azioni concitate ti poteva capitare di far tuffare il portiere involontariamente, convinto di avere tu il possesso di palla, e lasciavi la porta sguarnita e lì insomma era festa. Oppure perché stavi contrastando l'attaccante, quello, o magari per quello PS butta. Sì sì, no, è vero, è vero, esatto. E diciamo anche il primo scrolling estremamente fluido, finalmente sì. Il Commodore 64, questo ho letto che è un po' è un punto piuttosto discusso. Qualcuno dice che non aveva un hardware scrolling reale, alcuni dicono di sì. In pratica, quanto ho capito io, che non sono purtroppo un esperto di tecnica, l'hardware scrolling del 64 era dovuto a un trick, uno dei famosi trucchetti di programmazione che si faceva su dei registri. Per me vuol dire avere l'hardware, esatto, scrolling, esatto. Se la macchina lo fa, esatto, vuol dire che lo fa. Cioè, puoi inventarti i trucchetti che ti pare, ma se non lo fa, non lo fa. Dire, esatto, esattamente. E quindi è veramente, sì, veramente fluido. E addirittura questo gioco potevi fare la foca, mi ricordo. Cioè, nel senso, se tu prendevi la palla, se la colpivi e invertivi la direzione del giocatore, praticamente lui faceva una sorta di pallonetto dall'altra parte, e tu con la testa tu andavi avanti, ed era difficile poi a quel punto. Tra l'altro era bellissimo anche l'effetto sonoro del tum tum tum, piaceva un sacco. Tu, esatto, sì, vabbè. Diciamo che dal punto di vista audio, a parte i tifosi, che comunque voglio dire, dovete sempre considerare che non stiamo parlando di suoni digitalizzati, quindi la famosa doccia, esatto, però insomma non erano assolutamente male, a parte il rumore della palla che era veramente ruvida, insomma, come tipo di rumore. Grande gioco, ore. Tra l'altro non ce lo siamo dimenticati subito questo qui, perché è stato ripreso da moltissimi altri programmatori negli anni successivi, per piccole modifiche, anche grandi modifiche in alcuni casi. Sì. Una ce la mostrerà il distruggitore, credo. Sì, sì. La fine trasmissione. Che vi consiglio davvero poi di cercare su YouTube. E, però è stato anche molto divertente, per quanto mi riguarda, scoprire che anche un italiano si è cimentato in questa, sì, pratica delle modifiche. Roberto Negro, che ha aggiunto poi a International Soccer il replay e alcune modifiche minori. E tra l'altro esiste, siccome questo poi è stato un gioco veramente molto amato dal pubblico, ancora oggi esiste gente che se lo coccola, come dicevamo, e lo ha reso disponibile per i sistemi di gioco moderni, per i PC moderni, tramite un remake che modifica un po' il programma, diciamo, non esattamente lo stesso gioco. Viene eliminato il limite degli sprite, c'è l'ombra dei giocatori, ma anche questo comunque lo potete scoprire seguendo il link qui nelle note. Sì, no, effettivamente è stato molto moddato, addirittura c'erano pure delle versioni dove potevi cambiare anche il colore dei pantaloncini, non solo della maglietta, gli sprite erano più piccoli, magari più elaborati, cioè ce ne sono state veramente tante di modifiche, e purtroppo parecchia roba si è andata un po' persa. Poi sì, diciamo, ecco, i falli laterali ci stavano i rimessi al fondo, quindi insomma, gioco del calcio, diciamo, il più completo per quello che insomma è stata quella che era l'epoca allora. Poi chiaramente hanno cominciato a venire anche gli avversari, perché dicevo, mica ci stai solo scherzo. Chi poteva essere l'avversario giurato del Commodore 64? Come abbiamo detto prima, lo Spectrum, che chiaramente fremeva nell'attesa di un gioco di calcio, perché l'Inghilterra è un paese particolarmente affezionato a questo sport, l'ha inventato non a caso, poi dopo se lo sono dimenticato, no? E poi tra l'altro da qui a poco avrebbero avuto una squalifica veramente di quelle pesanti. Esatto. Ma a parte questo, c'erano moltissime software house che cercavano qualcuno in grado di produrre un videogioco veramente competitivo nei confronti di International Soccer. La Ocean era una casa nata da poco, chissà in futuro se ne parleremo. Di cui parleremo nella prossima puntata di Archeologia Videoludica, diciamocelo. Diciamolo allora, va bene. E quindi questa Ocean, che era interessata a queste cose, e in Inghilterra in quel periodo si tenevano moltissime fiere di computing, di computer, quindi tantissimi appassionati si riunivano di qua e di là, e in una di queste era presente appunto la Ocean con alcuni suoi dipendenti, e c'era anche un tale John Rittman, un ragazzo che aveva lobby della programmazione, che incrociò un dirigente importante della Ocean, con il quale ebbe uno scambio di battute, e lui disse: ma sai che io potrei farti un videogioco di calcio migliore di tutti quelli che vedi qui? Allora lui, il ragazzo, questo John Ritman, la buttò lì come una battuta. In realtà poi questo signore della Ocean non dimenticò quell'incontro. Esatto, e a distanza di qualche tempo disse: ma senti, veramente lo vogliamo fare? E cominciò questo John Ritman a programmare questo videogioco chiamato Match Day per ZX Spectrum, con altre due persone chiamate Bernie Drummond e Chris Clark. Ovviamente questi due sono stati dimenticati dalla storia dei videogiochi, è rimasto chiaro soltanto John Ritman, che ci ha messo il nome bello grande sul gioco. E appunto si chiamava Match Day questo software, che voleva richiamare alla mente una trasmissione inglese che esiste ancora oggi ed è condotta da Gary Lineker, una leggenda del calcio britannico, sulla BBC. E questo videogioco, appena lo si vede, insomma, si capisce che è estremamente ispirato a International Soccer. Sì, sì, voglia. Perché ha la stessa visuale laterale, la stessa impostazione pseudorealistica e degli sprite, tra l'altro, molto carini, a mio avviso, che l'autore aveva riciclato fondamentalmente da un suo gioco precedente. E infatti a me ricordano tanto anche gli atleti dei vari titoli sportivi della Konami, il multievento della Konami, però vabbè. E questo Match Day quindi è la rivoluzione per quanto riguarda il mondo dello ZX Spectrum. È un videogioco completo, possiamo dire che presenta tutti gli aspetti già visti in International Soccer. Non possiamo e non vogliamo, immagino, dire quale dei due sia migliore, perché qui credo che per tutti poi qui entra, i ricordi, sì, entra, gli affetti, entra l'affetto, la fede e tutto il resto, insomma. Però esatto, diciamo esatto una cosa, lo dico perché anche qui io, da commodoriano, avevo il mio amico che c'era lo Spectrum, e pur avendo amato e giocato veramente per ore e ore a International Soccer, Match Day era un gioco che c'era un fascino tutto particolare per alcune ragioni. Uno, la fisica della palla secondo me era leggermente migliore, almeno, era superiore, sì, almeno a così ad appeal. E poi c'era una cosa che a me faceva impazzire, che era il gol, cioè nel senso, quando tu facevi gol il rimbalzo della palla dentro la porta era realistico, cioè era qualcosa che sembra una stupidaggine, ma in realtà tu quando segnavi ad International Soccer, indipendentemente da dove entrava la palla, lui faceva rimbalzare la palla al centro della porta, al centro, okay? Sì, quello era proprio precalcolato così e doveva essere così. Invece se... anche quando andava fuori a volte, esatto. Invece su Match Day, se tu tiravi all'incrocio dei pali, la palla si appoggiava all'incrocio dei pali e seguiva la rete, diciamo così, che non era una rete ma era ovviamente un vettore praticamente. Uh-huh. E si accomodava giù all'angolo, praticamente rimbalzando dentro la porta, che era una cosa che era una stupidaggine, ma in realtà invece faceva il suo perché. Però se no, il modo, anche lo stile di gioco che tu improntavi era molto simile a quello che utilizzavi quando giocavi a International Soccer, proprio perché comunque i giochi erano estremamente simili. L'unico problema, ed è un problema legato, questa però è sempre stata la mia visione, poi insomma ognuno la vede come gli pare, è stato sempre un problema legato allo Spectrum, è il fatto che lo Spectrum c'aveva questa grossa difficoltà con i colori, cioè nel senso sì, che era impossibile distinguere le maglie quasi. Esatto, perché comunque sai che gli sprite spesso e volentieri erano monocromatici se non a due colori, e che comunque quando si incrociavano fra di loro si accavallavano i colori, quindi andava un macello. E poi vabbè, sì, anche lo colore dello sfondo, perché c'era questo verde assassino che anche questo avrà fatto morire le diottrie la felicità degli oculisti. Esatto, la felicità degli oculisti. Ma grande grande gioco, e secondo me grande grande sfida, insomma, indiretta, sì, involontaria, perché probabilmente allora ancora non c'era questa grande consapevolezza, ma insomma Match Day è stato un gioco sognato dai ragazzi, dai amici, cioè dai commodoriani, e poi infatti sono stati accontentati malamente, diciamo, anche purtroppo sì, perché le conversioni di match day, allora quella ce ne sono state due, quelle per tre mi pare, anche per MSX, quella per Amstrad CPC era accettabile, era stato fatto un lavoro decente, si poteva riconoscere il gioco anche se non era proprio spettacolare, ma su Commodore 64 era sì, un gioco veramente brutto, tra l'altro quasi irriconoscibile anche graficamente, perché c'erano questi sprite enormi, anche fatti bene, il problema non era vederlo in foto, era giocarlo, si perdeva molto del feeling con il joystick. Fu una delle più grandi delusioni, ti dico che ci rimasi male, cioè proprio ma male, nel senso che mi ci venne il magone, perché ero talmente contento che era uscito Match Day su Commodore 64, e quando ho visto quella porcheria, insomma, sono rimasto veramente molto deluso. Ma questo è un excursus, ragazzi, importante, perché sembrano stupidaggini, ma in realtà veramente questi sono si soffriva e perché non è che c'era poi dei giochi di calcio in generale nel mondo dei videogiochi, no? Cioè, poi dopo esplosa magari la mania, soprattutto proprio anche grazie agli sviluppatori inglesi, però insomma non è che all'epoca ce n'erano tanti, Anche su Amiga, per esempio, dei giochi di calcio sono stati veramente, sono arrivati tardi, poco e niente, insomma, e sono arrivati anche molto molto molto tardi. Ma tra l'altro i commodoriani, diciamo, potevano essere più fortunati in quegli anni, perché Andrew Spencer di International Soccer si era praticamente fissato con il gioco di basket di cui parlavamo, perché voleva far soldi con gli americani, fondamentalmente il suo obiettivo era questo, solo che andò incontro a problemi nello sviluppo del basket, doveva modificare molto più profondamente International Soccer, si impantanò in questo sviluppo e rinunciò a un progetto di International Soccer 2 del quale si è pentito amaramente, perché a pensarci oggi ci avrebbe fatto un sacco di soldi. E soprattutto alla luce delle copie vendute da Match Day, perché Match Day solo in Inghilterra, solo nei primi giorni di lancio, ha venduto 50.000 copie. 50.000 copie, oggi uno sviluppatore indie, cioè, venderebbe un rene esatto, per averle, esatto, per farle, esatto. E finirebbe anche da lavorare, tra l'altro, insomma. Sì, probabilmente perché, sì. Perché, vabbè, noi siamo abituati oramai a ragionare su quelli che sono i numeri del mercato mainstream, ma in realtà allora 50.000 copie veramente erano il fantasuccesso. Dovete considerare che la penetrazione dei computer e delle console non era quella di oggi, insomma, assolutamente. Vuoi per una condizione economica diversa, vuoi perché comunque erano nuove tecnologie e costavano veramente tanti soldi, vuoi perché comunque ancora non c'era neanche la cultura, insomma, da quel punto di vista. Sì, peccato, perché Andrew Spencer ci avrebbe fatto sognare, probabilmente ci avrebbe fatto anche dimenticare Match Day, insomma. Ha nuovi motivi per litigare, almeno ci avrebbe dato. Ma a questo punto andiamo avanti con questa fantastica storia e insomma, come abbiamo detto, c'è stato anche qualcuno che ha intuito che i giochi di calcio, soprattutto in Europa, magari potevano essere una miniera d'oro, e quindi sbucano fuori i primi giochi con le licenze, e licenze che soprattutto all'epoca, ma insomma in generale, questo discorso possiamo fare in generale, ma soprattutto all'epoca erano di dubbia utilità, insomma, anche perché poi che ci hanno tirato fuori? Non cose molto belle, devo dire. Allora, per quanto riguarda Peter Shilton's Handball Maradona, anche in questo caso vi lascio a ciò che verrà più tardi nel Kittesen Google, ma sì, se ne occuperà il distruggitore di questo. Mentre abbiamo altri titoli molto poco interessanti, devo dire. Li diciamo giusto perché sono un po' divertenti da conoscere. Innanzitutto Gary Lineker, l'abbiamo già nominato prima, ma era veramente una star negli anni 80 in Inghilterra, poi era andato al Barcellona, era diventato di caratura internazionale veramente, poi era forte, giustamente. Ci fu una grande attenzione sul suo nome anche dal punto di vista videoludico, e fu conteso il suo nome da due compagnie, dalla Mindscape e dalla Gremlin. La Mindscape fu quella che pubblicò Gary Lineker's Superstar Soccer, un videogioco di calcio che onestamente non sembrava particolarmente in grado di poter competere a livello degli altri concorrenti. Era stato programmato da degli sviluppatori che avevano realizzato un gioco di hockey chiamato Superstar Hockey, che che ha avuto molto successo, e vengono riproposti alcuni aspetti in questo titolo. Soprattutto si parla di un gioco che è fatto di una parte simulativa e una parte giocata. Si può controllare soltanto un giocatore, ci sono alcune mosse tipo rovesciate e testate molto interessanti, però globalmente, insomma, è chiaramente un tentativo. Io ho anche un paio di domande. Una: perché i giocatori sono dei gremlin? E soprattutto perché il centrocampo è una croce celtica, che è la cosa più importante. Non lo so, questo qua non te lo so dire, ma io credo che quello sia un tentativo di differenziare il campo dal campo di calcio classico, perché questo dovrebbe essere un 6 contro 6, se non ricordo male, ma comunque siamo veramente a livelli così, insomma, un pochettino cos'è Spectrum anche questo, immagino. Ci sono tutte le varie versioni, sì. Spectrum, Commodore 64, Amstrad, erano tutti in serie, li facevano sempre così. Bella roba, complimenti. Bella roba, molto bella. E poi possiamo rimanere sempre con Gary Lineker per parlare di Gary Lineker's Super Skills. Ribadisce, insomma. Ribadisce, ma questa volta passiamo alla Gremlin, che dice: ah, ce l'avrò io la soluzione per sfruttare bene questo nome. Dell'88, allora cosa fa? Sì, cosa fa? Toglie il calcio. In pratica Super Skills è tutto sugli allenamenti. È una cosa terribile. Non so se ricordi, gli ascoltatori ricordano l'arcade Combat School della Konami, in cui dovevi allenare un marine praticamente. E secondo me è una cosa molto simile. Tu alleni un giocatore ma non vai a fare la partita. È semplicemente così. Fai flessioni, vedi, questa è grafica Spectrum. Fai le flessioni, questa però, Sì, questo qui poi è arrivato anche su un 16-bit, il primo gioco di calcio, diciamo, di questa generazione ad arrivare sui 16-bit, gioco di calcio, oddio, non lo possiamo neanche chiamare tale. Ma poi tra l'altro sono degli allenamenti che col calcio non c'entrano niente, diciamo, cioè, la verità. Sì, le flessioni. No, le flessioni tanto, ma che tu t'arrampi e devi fare con le braccia il percorso in alto, cioè... Sì, hai visto. Vabbè, comunque erano belle sui 16-bit, animazioni fatte veramente molto bene. Sì, vabbè. E una cosa per la quale può valere la pena ricordarle la musica di Ben Dalglish, perché era un grande compositore, ma giusto questo, insomma. E la musica di Ben Dalglish la troviamo anche in Gary Lineker's Hot Shots, che è un gioco di calcio più gioco di calcio. Perché Lineker, insomma, aveva proprio bisogno di guadagnare un sacco di soldi in quel periodo. Probabilmente sì. Non lo pagavano abbastanza a Barcellona. E quindi, vabbè, più tradizionale, quindi con la visuale dall'alto, però ora poi vedremo con chi si doveva scontrare questo videogioco. Non aveva alcuna chance, poi aveva una grafica molto scattosa. Era un gioco di calcio di quelli che, in mancanza d'altro, come avevamo... I giocatori sono sempre... degli Hulk, poi, probabilmente. Su Spectrum poi, soprattutto. Ragazzi, sì, sono veramente terrificanti. Che sosserie, ragazzi. Sì, ultime citazioni per Emilio Butragueño e Peter Bursley, che avevano i loro giochi di calcio, ma qui vi lasciamo anche in questo caso i link, perché vanno visti su YouTube, perché questi videogiochi hanno una cosa fantastica, ovvero la musica durante la partita. Ah. Ma la musica è totalmente... totalmente estranea all'azione di gioco. Potrebbe essere di un film di Charlie Chaplin o di Stanley Olion, qualche cosa di agghiacciante, veramente agghiacciante. Sì, è un'esperienza particolare, guarda, molto vale la pena vederla, insomma. No, sì, sto vedendo, perché queste, no, cioè, alcuni di questi veramente a me assolutamente ignoti, eppure, ecco, guardandolo, per esempio questo gioco qui di Butragueño, ti sembra di ricordarlo? È un proto kick-off, tutto sommato, cioè, nel senso, sì. Anche qui altre intuizioni, quindi vedi che in un modo o nell'altro, anche dalla zozzeria, qualche cosa si è preso, ne è uscito fuori qualche cosa. Poi c'è anche il radar, se vedi, il radar è una cosa abbastanza... Perché lì era molto zoomata l'immagine, quindi... Sì. Vabbè, grazie a Dio, insomma, non li abbiamo giocati tutti questi giochi. Poi c'è sta, vabbè, quello di Peter Beardsley. Sì, quello è un bruttissimo, butraghegno e brutto. Fino a un certo punto, diciamo medio brutto. E Beardsley è proprio inutile, veramente orribile. Da vedere no, ma da giocare sì. Da vedere no, ma da giocare sì? Cioè nel senso... Sì, da vedere non è proprio... Non è proprio bruttissimo da vedere, se vedi c'è un pubblico fatto abbastanza bene, la grafica è fluida, ma è un gioco veramente scarso. Ah, questo, cioè, a guardarlo così, questi hanno preso il campo dell'International Soccer di Andrew Spencer, l'hanno un po' ridisegnato. Hanno fatto meglio il pubblico, le reti. Sì, sì, insomma, vabbè, anche questo molto... Beh, oddio, insomma, pure a guardarlo non è che sia granché. E poi ogni volta che succede qualcosa mi devi mettere la didascalia sul schermo, insomma, non si può guardare sta cosa, però... Sì, sì, con quel cambio poi momento. Sono giocatori con delle maglie a caso, poi tra l'altro, perché quello che controlli tu ha una maglia che non ha logica del colore che prende, vabbè, comunque una corrispondenza, no, assolutamente bella zozzeria, anche rimbalzo della palla, però vabbè, grazie di averci prego fatto vedere questi capolavori, andiamo avanti quindi. Sì, andiamo avanti perché abbiamo un'ultima licenza che poi ci ricollegherà ad un tema più importante, ovvero quella di Emlyn Hughes, che appunto viene portata in videogioco da Emlyn Hughes International Soccer, un nome che ci ricorda un altro videogioco, ovviamente. E non è un caso che anche questo si chiami International Soccer. In realtà non ci sono legami ufficiali con il videogioco di Andrew Spencer, ma la grafica sembra quasi un plagio dello stesso gioco, ma soltanto apparentemente, perché Emlyn Hughes è veramente un gioco molto più complesso e completo. Il programmatore si chiamava Graham Bleeg, penso, se così si può pronunciare, e lavorava per la Audiogenic. E appunto, nonostante questa somiglianza sfacciata in International Soccer, si gioca in maniera totalmente diversa. Qui l'obiettivo degli sviluppatori è veramente quello di fare una simulazione di calcio, che è un compito quasi folle per un Commodore 64, che aveva, non lo dimentichiamo mai, un controller con un solo pulsante di fuoco. Nonostante questo, a mio avviso sono stati fatti miracoli, perché è un gioco dalla tecnica veramente eccezionale. Innanzitutto vengono sistemate alcune cose per rendere più credibile la partita. Il campo di gioco è molto più lungo, diciamo più verosimile, anche se questa forse è una parola un po' esagerata a questi livelli. E poi anche i giocatori non sono più disposti in maniera casuale, ma sono disposti tatticamente, e questo è una grandissima rivoluzione. Ma quello che si nota molto di più è il differente feel proprio con il joystick, con i giocatori. Ci sono i falli pure, vedi? Ci sono i falli. Sai che era questo quello che dicevo, la versione più seria. Perché comunque, non sapendo magari tutte queste informazioni quando eravamo ragazzini, per noi questo era il gioco di Andrew Spencer modificato, cioè nel senso... Esatto. Non so se... Sì, non so se questo è stato fatto, questa somiglianza eccessiva sia stata volontaria proprio per magari far pensare a un seguito non ufficiale o ufficiale magari o altro, ma comunque veramente sembrerebbe una versione più avanzata di International Soccer. E sono i controlli la vera rivoluzione qui, perché innanzitutto i giocatori hanno ognuno la propria velocità, la propria potenza di tiro, quindi sono diversi l'uno dall'altro. Questo apre anche un ventaglio di possibilità tattiche notevole. E inoltre è la prima volta che un giocatore ha la propria forma fisica. Quindi quando cominciamo una partita dobbiamo vedere chi sta meglio e chi sta peggio e mandarlo in campo. Cosa poi ripresa da Microprose Soccer. Quindi. Pensavo che fosse quello il primo gioco che avesse... Invece no, vedi? No, è arrivato prima Emlyn Hughes, ma come dicevo prima, questo qui non è un arcade, è molto lontano dagli arcade, anche se chiaramente essendo un gioco di calcio si può giocare in maniera abbastanza spensierata, perché i giocatori hanno una velocità innanzitutto graduale, i giocatori partono piano e aumentano la velocità fino al loro massimo continuando a correre. Nei cambi di direzione non è più quella cosa, non c'è più quel cambio repentino, quel movimento brusco. Se si fa un'inversione di direzione, il giocatore ferma il pallone, passa dall'altra parte e riparte. Quindi anche le tempistiche del calcio sono meglio rispettate. Il tiro è un altro, presenta un'altra caratteristica molto interessante, che il Five Directions Shoot lo chiamavano, ovvero la possibilità di tirare in 5 direzioni diverse dalla propria posizione. Non bisogna essere più rivolti verso la porta avversaria per tirare, e tirare soltanto in quella direzione, ma lo si può fare anche da altre posizioni, semplicemente muovendo il joystick dopo il tiro. Non è il classico effetto, funziona un po' diversamente. E poi rispetto all'International Soccer si notano le moltissime animazioni in più: colpi di testa, colpi di tacco, si può colpire la palla in vari momenti, non soltanto quando è all'altezza della testa o a terra, anche anche a metà, diciamo a mezza altezza. Quindi una vera rivoluzione dal punto di vista dell'approccio alla partita. E sono stati fatti dei miglioramenti poi anche nell'audio, in qualsiasi aspetto. Ed è molto interessante sapere che l'unica versione localizzata di Hamlin Hughes è arrivata in Italia per opera della Idea Software, che lo ha trasformato, l'ha localizzato in rete, che era disponibile sia su Commodore 64 che su Amiga. Nel periodo degli anni in cui ovviamente non c'era veramente un controllo sulla legge d'autore, quindi sui diritti d'autore, quindi i giochi praticamente venivano importati, tradotti cambiati, e buonanotte. Cambiato il nome, arrivederci e grazie. Ho appena scoperto che questo gioco, tra l'altro, proprio con il nome di Hamlin Hughes International Soccer, è stato poi successivamente portato anche su Amiga 500, quindi l'Amiga 500 ha di fatto un erede di International Soccer per Commodore 64, quindi questa cosa non... Sì. Adesso che lo vedo lo riconosco nel senso che so di averci giocato sia su 64 che su Amiga, ma veramente era una cosa che non so per quale ragione avevo dimenticato, ma la cosa bella è che c'erano cioè, nel senso, se vedete quello per Amiga è praticamente identico a quello per 64, se non per ovviamente il dettagli relativi miglioramenti grafici, insomma, notevole. Sì, fra l'altro è stato un gioco, l'Audio Genic ha lavorato bene sulle conversioni, perché su Commodore 64 è quella originale e come sempre è quella più bella, ma su Amiga è fatto bene, è fluido persino su ST, questa insomma è una cosa abbastanza difficile da ottenere, e anche su ZX Spectrum e CPC era fatto abbastanza bene, un po' lento sul CPC Amstrad, ma comunque un bel gioco di calcio. E comunque quello che dicevi del non conoscerlo è secondo me abbastanza comune, neanche io lo conoscevo negli anni in cui ero possessore di Commodore 64. Devo dire che io mi rifornivo principalmente da edicole inconsapevolmente. Sì, esatto, anche questo è il problema. Ma non l'ho mai incrociato. Sai perché forse non c'era in edicola? Perché anche se tu vedi il menu di Hamlin Hughes è molto complesso. Questo è un gioco secondo me che non potevi comprimere tanto facilmente nelle compilation da 20 giochi a cassetta. Quindi secondo me non ha avuto la possibilità di venire sfruttato in questo senso, e quindi ne ha risentito un po' in popolarità. No, ma dalle nostre parti. Giocone veramente. Bravo. Giocone, e tra l'altro è stato è quello che ha la fanpage su internet più bella in assoluto. Ed è anche molto giocato oggi, ci fanno ancora dei tornei, quindi insomma, se qualcuno volesse informarsi trova abbondanti risorse anche nel link che vi mandiamo a fine pagina. Ma addirittura la fanpage su Facebook, aspetta che me la cerco in diretta mentre tu... Non so se ho detto su Facebook, dicevo su internet, ma comunque forse c'è anche su Facebook. C'è, quindi insomma ragazzi, piace anche, sì, magari se te levi brutta scritta di merda. Tra l'altro questi qua dicono che Hamlin Hughes non è stato il gioco più bello dei computer 8-bit del Commodore 64, ma che il gioco è tuttora il gioco più bello della storia dei videogiochi. Dicono, perché giocare a questo e non a FIFA 2012? E quindi insomma spiegano anche questo sul sito. Bene, bene, bene. Questa era l'epoca di Match Day 2. Sì, era l'epoca di Match Day 2. Chiaramente c'era molto fermento nella comunità Spectrum per l'arrivo del seguito delle loro del loro gioco dell'orgoglio, diciamo, per quanto riguarda il calcio, e era anche tempo di speranza per i 64isti che volevano magari una conversione accettabile dello stesso videogioco. E Match Day 2 non delude fondamentalmente, forse il primo è ancora più amato perché chiaramente è stata una bandiera di un'epoca, ma comunque Match Day 2 porta... è stato un simbolo, sì. È stato un simbolo, ma comunque Match Day 2 è effettivamente migliore, muove dei passi avanti importanti. Somiglia al primo, chiaramente, ma presenta molte introduzioni importanti. I rimbalzi della palla, che tu Simone avevi notato giustamente, erano stati molto apprezzati dal pubblico nel primo episodio e vengono migliorati nel secondo, e fra l'altro il programmatore Rittman ci tiene a sbandierarlo ai 4:20. Infatti parla di questo sistema di rimbalzo a diamante: in pratica quando il pallone colpisce un elemento di gioco rimbalza in maniera verosimile, potremmo dire più verosimile, perché chiaramente non si può parlare ancora di realismo. Anche qui l'intelligenza artificiale dà più possibilità tattiche, il gioco si muove in maniera più credibile, bisogna imparare a giocare meglio per ottenere risultati migliori. Ma per quanto riguarda il gioco vero e proprio, è importante l'inserimento del kickometer, ovvero la differenza di tiro, di potenza nel tiro. Come l'abbiamo già visto in Emily Hughes, Match Day è grossomodo contemporaneo, arriva anche un po' prima volendo, però la implementa in maniera diversa. Perché quando noi giochiamo a calcio, nella realtà, normalmente abbiamo un nostro passo. Non possiamo colpire il pallone in qualsiasi momento, in realtà, perché se il pallone è ad una distanza non ottimale dal nostro piede, tiriamo male. O non lo prendiamo. O non lo prendiamo del tutto. Ecco, questo è il concetto implementato in Match Day 2. C'è una barra sia sopra la testa dei giocatori, sia in alto nello schermo, che ininterrottamente si muove da sinistra verso destra, si riempie e si svuota di continuo. Quando non è esattamente corrispondente all'animazione dei giocatori sul campo, però il concetto è quello. Quindi se noi colpiamo il pallone nel momento propizio, riusciremo a calciarlo con una violenza ragguardevole, quindi magari avremo più possibilità di segnare. Mentre se lo colpiremo quando la barra è al minimo, ci verrà un tiro fiacco che forse non impensierirà il portiere, con tutte quelle situazioni intermedie, chiaramente. Beh, è un gioco un po' più lento. Due cose si notano, però. Sì. Uno è che l'associazione oculisti d'Inghilterra gli ha impedito di rimettere il campo verde, infatti il campo è bianco. La cosa brutta che si nota è che i giocatori sono diventati un po' di pupazzetti, mutande, insomma. Sì, sono meno carismatici, secondo me. Anche. Questa è un po' la cosa che in realtà leva spessore a paradossalmente, ovviamente, proprio per un fattore estetico, leva spessore a un gioco che cioè aveva tanto c'ha tanto da dire. Sì, è molto... Anche qui secondo me forse è ancora peggio il riconoscimento dei giocatori. A me sembra ancora più difficile. Esatto. Ancora più complicato. Comunque, sì. Questo è un difetto della macchina, insomma c'è poco da fare. Stavolta comunque dicevamo che è stato convertito in maniera dignitosa per Commodore 64, qualcuno lo considera addirittura a livello dei migliori titoli. Sicuramente è un buon gioco di calcio, nulla a che vedere con la prima conversione. Su Amstrad invece siamo agli stessi buoni livelli del precedente. Quindi vabbè, il problema era proprio legato al 64, insomma. Ai programmatori, diciamo, dai. Le conversioni da Spectrum a 64 erano infami all'epoca, veramente. Sì, beh, erano proprio due macchine diverse, due processori diversi, due linguaggi diversi, quindi... E anche se la versione per Commodore 64, come dici te, in effetti è migliore rispetto all'infame l'infame versione del primo, insomma, diciamo che la bruttura c'è comunque. Vedi, hanno aggiunto anche i colpi di testa, tra l'altro, quindi vedete. Praticamente poi come evolve un gioco o l'innovazione che porta un gioco poi condiziona, e questo come poi ovviamente è stato per tanti altri giochi nella storia dei videogiochi, condiziona poi ovviamente anche i giochi che verranno a venire, insomma. Successivi, sì, sì. Però vabbè, insomma, rispetto a Emily Hughes, secondo me stiamo non è, cioè, non è, cioè non ha portato Match Day 2 quello che ha portato Match Day 1, diciamo così, nel senso che... No, non c'è la stessa differenza. In realtà, come dicevamo prima, questo in realtà esce un po' prima Match Day 2 di Emily Hughes, ma non è, non regge, non regge. Quindi siamo arrivati all'ultimo. Esatto. Siamo arrivati. Dove siamo arrivati? Mi sono perso. A Microprose Soccer. Beh, allora, ragazzi. Allora, siamo arrivati al gioco. Al gioco definitivo. Perché comunque. Adesso ce lo racconta chiaramente Gianluca, perché insomma, sappiamo insomma che il videogioco storico è lui. Insomma, però. Questo è un gioco che probabilmente, anche se a fatica, anche se lottando, ha spodestato il mitico International Soccer e versioni successive, perché è stato un gioco che poi alla fine ha implementato una cifra di elementi e soprattutto che ci ha fatto fare i fantatorneoni con tanti amici, insomma, quindi... Sì, aveva la vocazione totale da torneo. Esatto. Secondo me chi non ha goduto adeguatamente di Microprose Soccer è semplicemente chi all'epoca, cioè nel 1988, ma poi ovviamente ha avuto più popolarità negli anni successivi, aveva già ceduto il Commodore 64, perché era in pieno la transizione verso i 16-bit, quindi forse qualcuno se l'è perso, ma comunque tant'è che infatti questo gioco c'è una versione anche per Amiga, quindi... C'è una triste versione per Amiga. Vabbè, però insomma... Sì, c'è. Poi ti dico anche una piccola cosa sulla versione Amiga. Comunque, chi c'era dietro Microprose Soccer? Nonostante si chiami Microprose, la Microprose è soltanto il publisher di questo videogioco. Sì. Allo sviluppo c'era un certo John Eyre, che forse qualcuno ricorderà perché è il leader della Sensible Software. Quindi uno dei giochi di calcio, esatto, più amati sull'Amiga, esatto, era fatto esattamente dalle persone di Microprose Soccer. Uno dei due più bei giochi in assoluto della storia del calcio, insomma. Quindi... sì, beh, insomma, qui io sono sempre prudente a lanciare. Lo so, però devi sempre considerare che noi stiamo facendo archeologia videoludica, quindi per noi, per quanto magari ne parleremo, PES e FIFA non esistono, cioè nel senso... Sì, ci arriveremo, però comunque chiaramente sono Sensible Soccer e pochi anni prima quest'altro hanno rappresentato una fase importantissima, secondo me la Golden Age del videogioco, per quanto mi riguarda almeno uno dei momenti più belli in assoluto della storia del videogioco, ed essere re di questo, ed è diventato re di questo periodo con assoluto merito. Sì, con assoluto merito a Microprose Soccer, perché era un gioco estremamente avanzato. L'idea venne ai ragazzi della Sensible Software giocando in sala giochi a Tekken World Cup, un coin-op che qualcuno si ricorderà secondo me perché ci avrà perso dei polpastrelli, perché si giocava con le trackball e praticamente io mi ricorderò molto giovane e ogni volta che cercavo di correre più velocemente col pallone mi rimaneva la mano impigliata nella trackball e mi facevo un male cane. Comunque loro videro questo videogioco, aveva una impostazione dall'alto, cioè da visuale dall'alto classica, e la Sensible Software trovò che questa era l'impostazione migliore per farci un videogioco. Perdonami, come si chiamava sto arcade? Tekken World Cup, guarda, te lo scrivo. Tekken con tipo Tekken. Così. E questo con la K, con la H, Tekken. Non è scritto, giustamente. Sì. Brutto questo. E questo videogioco era molto, si poteva incontrare in sala giochi alla fine degli anni 80 in Italia, anche se non era popolarissimo come altri coin-op anche precedenti. Tuttavia l'impostazione colpì questi ragazzi e decisero di fare un videogioco per Commodore 64 molto simile. E quindi visuale dall'alto, delizie tecniche notevoli, perché la Sensible Software riuscì a utilizzare tutti i sprite in alte risoluzioni, relativamente alta risoluzione per il Commodore 64, ma la cosa più bella di Microprose Soccer era quella più difficile da spiegare, cioè la sensazione, il piacere di giocare. Era semplicemente un gioco divertente. Per quanto possa sembrare semplice questo concetto, è la cosa più difficile da trasmettere. Ho capito quello che vuoi dire. Sì, era semplicemente divertente, anche perché la Sensible Software riuscì a mettere delle novità veramente molto importanti mantenute in seguito nella storia del calcio, come l'aftertouch, ovvero l'effetto, il famoso effetto dopo il tiro. Il tiro a banana. Il tiro a banana, il famoso tiro a banana. Tu premevi il pulsante di fuoco e potevi modificare successivamente la traiettoria del pallone a tuo piacimento, e questo chiaramente permetteva azioni molto più spettacolari, divertenti, e il gioco era, aveva un ritmo molto sostenuto, non era una simulazione, era molto diverso da Emily Nukes, quindi anche in questo caso si formarono le varie fazioni, quindi chi apprezzava quello, chi apprezzava quell'altro, chiaramente sì, la stessa situazione che si è avuta con Kickoff versus Sensible Soccer. Ma non solo, il coinvolgimento in questo videogioco aumentava anche grazie a piccolezze assolutamente geniali come le condizioni atmosferiche. Durante la partita di Microprose Soccer poteva piovere, ma la cosa ancora più divertente secondo me è che nel primo tempo poteva piovere, nel secondo no, quindi era anche variabile, e la pioggia non era soltanto grafica, addirittura poteva incidere sul gameplay, perché le scivolate, per dire, erano molto più pronunciate quando il campo era bagnato. E c'era anche uno spettacolare replay, non era la prima volta che si vedeva il replay, ma qui è fatto veramente bene, perché c'è un effetto grafico meraviglioso di riavvolgimento del nastro in bianco e nero, che anche a vederlo oggi, per quanto mi riguarda, è emozionante. E quindi tutte queste cose, poi una impostazione da torneo, dicevamo una vocazione da torneo proprio particolarmente pronunciata, perché era possibile disputare un campionato del mondo nella sua interezza, quindi dei gironi, sì. Quindi era proprio veramente fatto molto bene, era molto coinvolgente da questo punto di vista. Poi c'erano tutte le squadre possibili e immaginabili, tutti ricordano l'Oman, c'era il Qatar pure. Che non si era mai vista praticamente nei videogiochi, e ho trovato che praticamente Chris Roberts l'aveva inserita questa squadra semplicemente perché sua mamma ci lavorava in quel periodo, e quindi per sentire la mamma più vicina ha messo l'Oman come nazione selezionabile. Quindi insomma è un grandissimo classico che non poteva che essere convertito anche in questo caso. Purtroppo l'unica versione veramente capolavoro era quella per Commodore 64, nelle altre è stato perso qualcosa, nonostante nella versione per i 16-bit sia stato utilizzato un meccanismo di conversione veramente ingegnoso, perché questo programmatore decise di emulare il 6502 del Commodore 64 per catturare esattamente ogni operazione fatta dal processore, quindi per veramente creare lo stesso gioco su Amiga. Ora io sinceramente non so come sia possibile che su Amiga vi sia comunque una sensazione diversa nel giocarlo, quindi solo su Commodore 64 si può apprezzare veramente questo capolavoro. Non ricordo neanche mai di averlo giocato su Amiga, quindi non credo fosse molto popolare. Una cosa che ho dimenticato di dire è che la cassetta di Microprose Soccer originale, chiaramente è meglio specificarlo, aveva su... Guarda, io posso dire una cosa, sono passati 30 e più anni e quindi non sei perseguibile, e quindi è per iscrizione, voglio dire, cioè nel senso, però voglio dire oggettivamente chiunque, perché io poi voglio dire, ho trovato difficoltà, già l'ho detto magari anche perché volevo fare una trasmissione speciale sui venditori dei negozi dei videogiochi di allora o dei computer, e nessuno, tutti alzano la mano, roba, cioè ragazzi, ma allora era così, cioè non c'era neanche la legge, cioè non è che era una cosa, poi dopo ovviamente sono uscite le leggi, quindi è cambiato tutto, certo. Io mi ricordo una volta entrai dentro il negozio di computer e dici guarda, volevo comprare quel gioco, traimelo da originale. Ma che stai a fare? Cioè, è venuta la finanza. Io avevo portato tutto, quindi cioè. Certo, ma io, guarda che a me una volta regalarono Choplifter, un videogioco anche molto bello tra l'altro, per Commodore 64, quello dell'elicottero in cui dovevi prendere le persone terra, farle salire, e me lo regalarono originale. Io era la prima volta che vedevo un gioco originale e rimasi malissimo, ma malissimo, perché sulla cassetta c'era un solo gioco ero disperato, sì, perché esatto, come c'erano 30 su quell'altra, abbiamo distrutto la generazione dei software house noi con sta storia, sì. Però quello che stavo dicendo è che sul lato A di MicroProse Soccer c'era il classico gioco del calcio col campo di calcio, e nel lato B c'era la versione indoor, ovvero il calcetto stile americano, mi pare, con le pareti rimbalzanti. Anche lì non poteva uscire la palla, quando tu colpivi la parete il pallone ritornava in campo e si continuava così. Quindi una variante sicuramente meno apprezzata, però comunque era bello che ci fosse, insomma. Grande, sì. Tante squadre, le formazioni, cioè anche un approccio, insomma, più ragionato, diciamo, non manageriale, ma comunque sì, più ragionato. C'erano tante squadre, c'erano le squadre con le varie magliette, cioè, insomma, il campionato mondiale con i gironi, eliminazioni, insomma, è stato un gioco che anche qui serate, quindi poi ecco, avendo come dicevi te questa grande vocazione da torneo, in effetti si facevano proprio i torneoni, ognuno si prendeva la squadra e si andava avanti, insomma. Fra l'altro, non vorrei ora sparare alla grossa, ma se non ricordo male, era possibile selezionare fino a 16 giocatori. C'erano 16 squadre, tu potevi mettere 16 giocatori umani e poi il computer ti combinava i vari incontri del torneo. Sì, potrebbe anche essere, sì, adesso oggettivamente mi pare. Non mi ricordo, però sì, comunque mi ricordo che ci si facevano i grandi torneoni, e questo è il gioco col famoso tiro a banana, che poi anche MicroProse Soccer ovviamente c'era il problema della mattonella, però vabbè, in realtà tutti i giochi allora c'erano più o meno, insomma, sto difetto, che poi qui secondo me era un po' più attenuato perché era molto veloce il gioco, quindi per posizionarti nella posizione giusta era un pochettino più difficile, sì. Però dopo che ci hai preso la mano col tiro a banana, c'erano delle cose, insomma, che erano praticamente quasi sempre gol, ma poi sì. In realtà, insomma, era il divertimento che ti suscitava un gioco come questo, perché come hai detto te, ovviamente magari era molto meno simulativo rispetto a qualche altro gioco, però era lo spasso, cioè era divertente, sì, assolutamente sì, ed è stato sicuramente, ecco, non è un caso il fatto che è stato sviluppato da Sensible, diciamo il gioco che veramente mette il seme per quello che poi sarà nell'avventura 16-bit, una grande sfida, cioè una delle, forse la prima e forse anche quella ci piace ricordare più romanticamente, la più bella sfida tra giochi di calcio, e lo dico da chi Coffaro, quindi, cioè, nel senso e poi quando magari ne parleremo, insomma, faremo anche di sentire quella piccola intervista che ho fatto a Dino Dini, perché il giorno in cui io ho avuto modo di parlarci e stringergli la mano, per me è stato un momento, e non a caso la domanda che io ho fatto è stata: ma lei si rende conto che nella mente di noi giocatori dell'epoca per lei era una leggenda? Lui ci ha risposto dicendo: me ne sono reso conto poi negli anni, quando mi arrivavano le mail dicendo guarda, hai scritto cartellino Gaillo anziché cartellino giallo, e lì mi sono reso conto che anche al di fuori dell'Inghilterra c'era qualcuno che giocava al mio gioco, e che quindi la cosa aveva una dimensione molto più grande di quanto io stesso magari mi rendessi conto. E che c'è oggi gente che ci fa i podcast su quello che ha fatto tanti, capisci, anni fa. Cioè, nel senso, e lui anche una persona distinta, anche perché, insomma, anche parlando in italiano, perché poi comunque lui è di origini italiane, anche se lui si ritiene inglese, è una persona con la quale si è potuto discutere amabilmente, e soprattutto accetta, forse anche lui accetta di partecipare a queste cose, proprio perché in qualche maniera romanticamente anche lui piace ricordare un'epoca che comunque anche per lui è un'epoca andata, anche se poi lui ci ha riprovato, insomma, con scarsi risultati chiaramente, perché ma forse anche per ricambiare l'affetto, io credo che ci sia anche questo, secondo me è come se lui, non soltanto lui chiaramente, molti programmatori, a volte mi capita anche di vedere, oddio, come si chiama, anche i musicisti che sono molto disponibili con i fan, perché secondo me hanno ricevuto tanto amore che neanche sospettavano. No, infatti lui, questo, cioè, tu vedi la sua partecipazione è una partecipazione di gioia, nel senso che poi alla fine lui in quel momento è talmente stupito, no? Ancora meravigliato di una cosa del genere, che si nutre un po' anche questa, non della fama in sé, capisci? Ma più della sensazione del diciamo, ma cioè, ma veramente era così, perché ed era così. Io ho detto, dai, cioè, gli ho fatto la domanda e lui ci ha pensato un attimo, poi dopo comunque poi ha fatto tutto un discorso che era un discorso coerente, no? Il fatto, io non c'avevo, cioè nel senso, erano altri tempi, no? Non c'era internet, non c'era la percezione della venduto milioni di copie in tutto il mondo, no? Quindi se non ovviamente magari con i guadagni che sicuramente all'epoca, con l'assegno, esatto, sicuramente non era quello che comunque sarebbe stato oggi, no? Quindi, e pensare che, certo, che lui con grande dignità rispetto a tutti gli altri retroprogrammatori dell'epoca, che oggi vi rivediamo affacciarsi su Kickstarter con ovviamente alterne fortune e in qualche caso anche grazie al cielo, insomma lui con grande dignità, insomma, ha comunque accettato di non far più parte di questa realtà e di ricordarsela con piacere insieme a, comunque a noi, magari quando ogni tanto, o a tutte le persone che ogni tanto magari lo chiamano in causa per le interviste o per ricordare quello che è stata l'epoca, cosa che per esempio io, ecco, Dino Dini è stato un altro di quelli come Andrew Spencer, uno di quelli che ci aveva stampato il nome sul gioco. Insomma, quindi sì. Poi era Dino Dini, cioè uno che si chiama così, no? Nel senso, diciamo, questo è pure italiano, capito? Quindi doppiamente leggendario. Sì, no, perché io quando ero ragazzino pensavo che fosse uno italiano, cioè che fosse sviluppato in Italia, cioè è stato fatto, programmato in Italia, Kickoff, cazzo ne sapevo, cioè nel senso. Anche se già esistevano le riviste e tutto quanto, poi dopo su The Games Machine lo intervistarono, scoprì che, però insomma, vabbè. Ok, dai, io direi che a parte il kit Sengoku che lanciamo insomma prima della sigla finale, diciamo che insomma questo primo blocco di d'avventura l'abbiamo raccontato, insomma non è che è andato. E saranno belli anche gli altri blocchi, ma questo forse è il blocco più romantico esatto, me. Quello insomma la radice di tutto, ed è comunque stato il momento in cui giocavamo tanto e giocavamo a questi quattro pixel in croce, come diciamo spesso, che per noi sembravano la televisione, insomma. Paolo Rossi, esatto, sì, e Zico. Poi ovviamente ce le fantasticavamo noi, chiaramente, le telecronache che erano non lontane dal venire, ma proprio iper fantascienza, insomma. E vuoi fare un tuo commento finale e poi dopo andiamo, se vuoi dire qualcosa, insomma, se vuoi aggiungere qualcosa, no, cosa di tutto questo hai amato di più magari. Ma allora, guarda, se devo fare la confessione di fine puntata, ma secondo me si è capito, il mio gioco della generazione era Microprose Soccer, sì, sicuramente. Sì, sì, sì. E ti condivido. Anche se ho giocato, sì, anche ero 64ista, poi chiaramente ho giocato tantissimo a International Soccer negli anni precedenti, ho avuto la fortuna di averlo presto, il Commodore 64. Ma a parte questo, è stato uno speciale, secondo me, bellissimo da preparare. Perché ho avuto modo di scoprire anche cose che non avevo approfondito, e consiglio a chi non conosce i giochi trattati di darci un'occhiata, perché a parte quelli simpatici nominati giusto così per cazzeggiare un po', sono veramente interessanti e c'è del divertimento anche nel riscoprirli, non sono soltanto giochi vecchi, morti, belli da ricordare, ci sono ancora, possono essere ancora motivo di interesse. E io penso che, e ti suggerisco a questo punto magari di prendere tutte queste informazioni che abbiamo, o che hai anzi, scavato, e condensarle magari in un piccolo video riassuntivo proprio per il tuo canale, insomma, visto e considerato che oramai comunque la ricerca l'abbiamo fatta, e proprio per far vedere anche un po' a tutti, insomma, perché, e con la maestria e la grande sintesi, insomma, la quale poi alla fine tu sei in grado di mostrare nei video che fai, insomma, quindi insomma speriamo poi noi ci possiamo lavorare, perché poi alla fine comunque hai detto bene, ci sono cose che comunque vanno riscoperte. Se siete appassionati di retro gaming, e anche se non siete appassionati di calcio, considerate che proprio questo blocco di tipologia di giochi è stata molto importante in realtà invece nell'evoluzione del videogioco. Detto questo, Gianluca, io ti ringrazio come al solito, vabbè, E io ringrazio te perché è stato uno speciale fantastico. Non soltanto dai commenti, ma anche dai commenti che arrivano in privato, roba del genere. Insomma, è oramai riconosciuto il fatto che la nuova linea di archeologia videoludica ha potuto prendere vita e tornare ad essere, insomma, un po' forse anche migliore dei vecchi fasti, anche grazie, insomma, al tuo subentro all'interno di questa trasmissione, che è stata, insomma, non applaudita anche di più, insomma. Quindi grazie sempre e speriamo, insomma, di continuare a collaborare per milioni e milioni di anni. Ok, va benissimo, spero di sì, e spero di migliorare, spero anche di camparli, soprattutto di anni, insomma, esatto, soprattutto. Va bene, io vi saluto e prima, insomma, della sigla finale vi lasciamo ovviamente con qualche chicca divertente del nostro amico Marco Gualdi nel Kits in Google. Ciao a tutti. Kits in Google. E salutato Gianluca, io entro, apro questa porta come l'altra volta, orca miseria, sempre qui dentro, fammelo un po' cercare, perché poi non riesco manco a vedere niente. Dove stai? Destroyer? L'ho trovato. Che sei contento? Mezzo a sto freddo, sei contento? No, non è che sto contento, mi è entrata sta cosa in testa, non me la riesco a levare sta cosa in testa. Ma chi è che c'ha questa idea del brillante di fare sta puntata sui giochi del calcio? Io ce l'ho avuta io. Bravo. Ho sta cosa qui in testa. Senti, comunque ci chiedono ancora, gli utenti ci chiedono perché c'è il vento dentro sto posto. Perché è un frigorifero pandimensionale. E dice, no, tu devi spiegare che è un... Comunque non si chiama porta. No, ne apro questa porta. Porta, giusto. Si apre il portello. Togli i sigilli al portale dimensionale. Poi lascia stare che è un frigorifero. Però è un portale dimensionale. Dimensionale, vabbè. E dico, ma devi spiegare che è un effetto scenico. Perché non essendoci il video per far vedere il freddo, la cosa che viene è il suono del vento. Certo, che facciamo? Certo. Spegniamo? No, infatti. Spegniamo, no, lasciamo. No, lasciamo, tanto la mia gente, dopo che se lo domanda, certo. Spero che prima o poi cambieremo ambientazione. Guarda, allora, perché fa freddo. Accomodati, guarda, sposta le fettine panate. No. Il quarto del bue è qui. Bravo, posso metterti seduto sopra il quarto del bue, è comodo. Ma io ti ho preparato la seggiola. La seggiola? Cioè, no, la seggiola si sarà affreddata. Io ormai. No, veramente è proprio fatta di ghiaccio. Ghiaccio, perfetto. Però ci può mettere il quarto del bue sopra. Quarto del bue, così tipo cuscino. A posto, bravo. Fai così, è comodo. Oh, deve dare gli emorroidi come minimo. Sì, beh, il freddo non fa proprio bene. Vabbè, cominciamo questa simpatica puntata di chiuso in Google. Il freddo purtroppo. Quello dopo. Vabbè, ok. E io direi che passiamo a partire subito con il primo audio. Considerate che la maggior parte delle cose che, come al solito, Marco trova sono video che noi vi facciamo sentire in audio e che vi troverete tranquillamente nelle note dell'episodio. Vi assicuro che questa puntata vale la pena. Non voglio il primo, poi cosa, l'avevo dimenticato, perché devo ricordarlo? Perché comunque il primo video, ci ricordiamo che, insomma, chi era intitolato il primo gioco di calcio della storia di Atari 2006. Non ho la più pallida idea. Adesso c'ho questa musica. Vabbè, basta, ho capito, ora abbiamo capito. Allora, no, diciamo che ci sono purtroppo delle persone famose che in vita loro hanno prestato nome, cognome e indirizzo a dei videogiochi, tra cui ovviamente Pelé, che diede il suo nome a questo gioco omonimo, lo possiamo chiamare omonimo, ma anche altri sportivi dell'epoca diedero i propri recapiti personali per utilizzarli nel videogioco di turno, e questa cosa la possiamo ricordare in un simpatico spot latinoamericano o latino. Questo è lo spot commerciale dei giochi sportivi di Atari 2006, però in realtà penso siano usciti anche in versione inglese, ma noi abbiamo trovato solo quella latinoamericana, quindi... Che è bellissima, perché oltre ad avere a mostrare quella che è le divise sportive dell'epoca, che sono veramente un bijou, fanno anche vedere dove venivano costruiti questi hardware e veramente programmati questi software in queste mega centrali con tutte cose, tutte lucine colorate, che era proprio così, vero? No? Certo, assolutamente. Quindi andiamoci a vedere, gustatevi il simpaticissimo e precisissimo doppiaggio spagnolo. Atari somete sus juegos a grandes pruebas. Karim Abdul juega contra el basketball de Atari. Qué buena canasta. El campeón Mario Andretti conduce en las pistas de Atari. Qué fácil salirse de la pista. El rey Pelé practica su propio fútbol. ¡Qué golazo! ¡Casi que me ganan otra vez! Atari es como jugar un verdadero partido. Pelé, ¿qué tal el partido? Mejor que nunca. Nadie le ofrece más juegos que Atari, de venta en Sears y otros almacenes, con la garantía de servicio de Graphics S.A. Che dice? Che buone canarco, ma che dice? Sì, ciala, lo vedrete perché ovviamente ve lo trovate nell'episodio, oltre ad essere brutto proprio lo spot. Brutto, è un doppiaggio fatto da una persona che fa tutti praticamente. E poi avrete riconosciuto, c'era Andretti, c'era Karim Abdul che parla spagnolo, che lui era Marco. Ma poi perché tra l'altro Pelé deve giocare al gioco del calcio in divisa, che perché io avevano detto che dovevano farlo così, misterioso. Perché sennò c'è l'immedesimazione, un po' come l'Oculus Rift oggi che immedesima. Vabbè, io insomma andrei oltre, possiamo commentare, sai, qui non è che c'è tanto da farvi sentire, quindi non lo faremo sentire niente. Però possiamo raccontarvi di come una volta, oggi non si fa, ma come una volta si moddava dei videogiochi. No, si fa anche oggi. Ma dai. Si fa anche oggi. Ma anzi, allora, è più strano il fatto che si faceva allora. Allora, andiamo a vedere questo modding di... del famoso International Soccer della Atari, Superstar Soccer del Commodore 64. International Soccer del Commodore 64 di Andrew Spencer, moddato in questa versione che vedrete, insomma, secondo il link, che è bellissimo. Andate a vedervi anche le pubblicità che sono a fondo campo, che sono stupende. C'è scritto culo. As, sì, bello. Vabbè, ma di qual è la peculiarità, se vogliamo chiamarla così, la peculiarità di questo gioco è che i giocatori sono paraplegici. Stanno e quindi in carrozza. Stanno in carrozza, esatto. Compreso il portiere, che ha questa simpatica coppia di stampelle appoggiate, attaccate alle braccia, che quando però deve tuffarsi, anche lui sta sulla sedia a rotelle, quando deve tuffarsi fa sparire la sedia per prodigarsi in un apprimente tuffo in cui le stampelle poi si incrociano altrove, ma è una cosa molto bella. Diciamo che non è stato curato bene il portiere. Diciamo non è stato curato proprio bene il modding, perché chiaramente insomma penso di essere stato un cialtrone quello che ha fatto sta cosa, anche perché insomma becera fino alla morte, una cosa del genere. Sì. Non c'ha nessuna ragione. La cosa più brutta è proprio, non è tanto il fatto che questi giocano in carrozzina, che ok, vabbè, a me se non concesso, insomma ci sono tanti sport e si fanno in carrozzina, il problema è proprio il portiere, che oltre a essere, cioè il fatto che sparisce la carrozzina e lui si tuffa con queste stampelle che poi si incrociano e rimangono appiccicate nello sfondo, vabbè, insomma, nello spazio e nel tempo. Direi che abbiamo dedicato anche troppo tempo a questo simpatico giochino, no? Attenzione a quello che moddate, insomma. Esatto. Allora, anche se siamo andati un po' avanti nel futuro, c'è un altro video pure qui, insomma, c'è poco da farvi ascoltare, che però è dedicato a FIFA 13, Marco. Visto che questo simpatico programma si parla di calcio videogiocato, abbiamo anche deciso... se siamo andati un po' avanti in questo caso, ma è sempre storia. Adesso è 14, è già vecchio. Tu sai che il calcio invecchia nel mondo videoludico ancora più velocemente di qualsiasi altro gioco, e quindi andiamo a vederci, anzi andatevi a vedere, non l'abbiamo già fatto, una simpatica compilation di bug dovuti al sistema fisico di FIFA, cioè all'Impact Engine, che praticamente di tanto in tanto sfarfalla, diciamo così. Beh sì, più che sfarfalla si incrocia, si cappotta da solo, insomma. Vabbè, andatevi a vedere, fatevi due risate, insomma, bel gioco da merda certe volte, bel gioco, vabbè, lasciamo vedere il gioco, che purtroppo questo Impact Engine non ha avuto, insomma, cioè, deve essere non notato, è proprio perfetto, non era perfettissimo nella versione 13, insomma, anzi qui in realtà sono solo sti incroci, gente rimane incastrata, gente che, però in realtà ci sono state anche situazioni peggiori, tipo giocatori che in scivolata schizzano via dal campo perché ma quello è proprio la realtà, è proprio così, okay. Quindi quello è proprio programmato, e questo insomma è un altro link che troverete, insomma, sulle note dell'episodio, sempre molto molto molto carino, ma veramente il capolavoro arriva. Comunque FIFA ci piace, non è un gioco di merda soltanto nel senso che questo Impact Engine qualche volta insomma è un po' ridicolo, però noi siamo come tutte le cose nuove, di tutti i giochi di calcio esistenti, di calcio, soprattutto, esatto, di quello che andiamo a dire adesso, che è un gioco per una console a noi sconosciuta, non sappiamo neanche di che cos'è, ma perché ci ha fatto talmente schifo che non volevamo neanche andare a vedere. Sì, non c'è andata a fare una ricerca accurata, fatevelo da soli perché è veramente una zozzeria. Si chiama Pet Soccer, ed è un videogioco in cui i protagonisti sono dei giocatori in forma animale. Ovviamente le squadre hanno dei nomi apposta, tipo l'Ajax, Panterdam, perché sono delle pantere, oppure invece del Barcellona c'è il Tartelona, cioè le squadre fatte da tartarughe, e giocano a calcio improponibile, inguardabile, con questi cosi deformi che sembrano. Ma poi perché fa una cosa del genere? La stessa domanda che potresti fare a quello che ha fatto il modding con le sedie a rotelle: perché fare queste cose? Non lo so, c'è gente malata. Ci hanno sprecato anche più tempo a farlo, forse. Poi anche più soldi. Ogni volta tiri da centrocampo quasi, cioè, sì, cioè, è un po' come FIFA Street con le bestie, diciamo. Sì, vabbè, insomma, il consigliere che sta sulla sabbia, tipo come se fosse un gioco nella savana, insomma, nel deserto, nel deserto, sono i cactus. Sì, esatto. Di stendere un paio di peli pietosi, sì, anche di peli pietosi. Però ricordiamo che da febbraio di quest'anno, forse anche qualche giorno prima, c'è una simpatica bambina di 13 anni, che forse adesso ne è 14, sì, ancora che visto, vi metteremo su un link in modo per farlo, ha chiesto di, cioè ha fatto una petizione per inserire un po' le calciatrici donne, non le calciatrici uomini, ma le calciatrici donne nel gioco di FIFA. È una cosa molto importante, del calcio femminile. Esatto, quindi è una cosa molto importante, cioè inserire le giocatrici, quindi calci femminili nel gioco di FIFA, nel FIFA 2015. Immagino quanto ci saranno state possa essere divertente il calcio femminile con l'Impact Engine. Stupendo, c'è gente che già sta spargendo fango a terra, cioè il programmatore che stanno programmando campi di fango. Esatto. No, vabbè, detto questo, penso che per quel che costa, insomma, inserire modifiche di tali proporzioni, penso che Electronic Arts non ti cagherà mai, insomma, cara bambina. Forse, dai, però, almeno 100 film l'aveva preso. Oh, allora adesso arriviamo a un gioco che noi con sei buono. Che con il buon Gianluca ci siamo dimenticati, insomma. Gianluca, questo ci è sfuggito. Voi vi siete dimenticati, ma io non potevo dimenticare. Lui non poteva dimenticarsi. Perché io ci ho giocato, io ce l'ho ancora. Ce l'ho ancora. E a questo punto faremo anche un video di questa cosa, perché prima o poi a Marco toccherà sbloccare questo suo blocco che ci impedisce di fare del retro video sul fatto che lui ha un Atari 800. Che se rimane lì chiuso potrebbe essere rotto, ma potrebbe funzionare. In fisica quantistica sono entrambe vere le due cose. Vabbè, ma prima o poi, insomma, dovrei sbloccare questo impasse, no? Ma poi dopo la fisica quantistica cozza con la realtà, non c'è. Lo so. Comunque io ho tirato fuori questo gioco che pensavo di aver dimenticato, che speravo di aver dimenticato, che si chiama Footballer of the Year. È un videogioco molto basilare in cui interpretate un giocatore di una squadra di divisione inglese, si può scegliere dalla prima alla quinta divisione. Esiste la quinta divisione? Non lo so, ti viene chiesto all'inizio del gioco il nome e il cognome. Esatto, quindi ti puoi mettere anche Simone Pizzi, perché tu saresti. Ma anche scegliere la squadra, ti chiede anche di scegliere la nazionalità. Esatto, perché potresti anche giocare in nazionale. Come funziona questo gioco? È un mix strategico molto facile, cioè praticamente. C'è anche l'Italia, Sì. Potrete impersonare l'attaccante che veramente ha azioni da gol disponibili per ogni partita. Cioè praticamente lo scenario è fisso con il portiere, a volte tirate un rigore, oppure a volte arrivano dei difensori a cercare di togliervi la palla. Nello specifico voi siete la palla, perché il vostro giocatore non si vede, è un po' come se fosse in soggettivo. Quindi avete questa palla. Sei una palla. Esatto, che potete muovere, se non è un rigore ovviamente, un po' a destra e a sinistra, e tirarla in porta prima che i difensori ve la tolgano. Quindi dargli la direzione e sperare che il portiere si butti nella parte del paese. E fino a qua, diciamo, potrebbe essere anche quasi interessante. Esatto. Perché comunque poi c'è questo mix tra tue possibilità, quindi tra quello che tu puoi fare in campo e quelle che poi ovviamente sono le statistiche della partita. Quindi è una sorta di semi-simulativo dove tu comunque perché tu potessi segnare 3 gol però perdere 4-3. Esatto. Fino oppure a che segnare neanche uno, ma la tua squadra vincere lo stesso. Tra l'altro con dei risultati spesso volentieri ritirati per a casaccio. Farlo, praticamente, che cosa sono anche le statistiche. Avete a disposizione le goal card che si comprano, ovviamente più la divisione alta, cioè addirittura la Super Division, che praticamente è una divisione europea, cioè l'antesignano della Coppa Campioni, magari chissà. E voi praticamente andate a comprare queste goal card che vi danno la possibilità di tirare, di avere queste azioni da gol. all'inizio della partita potete giocarvele tra virgolette e scegliere di appunto utilizzare una call card, e questa call card può valere da 1 a 3, cioè da un tiro a 3 tiri in quella partita. Quindi avete la possibilità di magari avere una call card di merda che vi dà soltanto un tiro o una buona call card che ve ne dà 3 nella stessa partita, e quindi provare a segnare questi gol. Ovviamente lo scopo è quello di segnare una caterba di gol, diventare giocatore dell'anno e ricevere fare soldi un po' come quelle dei giocatori di Serie A, insomma. E ovviamente ci sono le carte, le incident card, che sono praticamente dei diciamo, come si possono tutto chiamare, se fosse un Monopoli come si potrebbe chiamare, le penalità, una penalità. Non è anche una penalità, perché in realtà potrebbero anche essere cose positive, cioè una incident card vi può dire ok, tira un rigore, per avere soldi, incognita, diciamo, segno rigore, sì, esatto, okay. Oppure ci sono anche altre opzioni che vi possono permettere di guadagnare soldi vincendo la lotteria, oppure di fare, che ne so, dei lavori di pubblicità in alcuni locali e prendere dei soldi a seconda di quanto tempo ci spendete. Vabbè, cioè è abbastanza articolato come gioco. Potete anche essere sidurati dalla squadra, se non fosse retrocedere. Se non fosse che tu gioca proprio una merda, una grande merda. Cioè, nel senso che tutta questa sua parte molto articolata poi alla fine svanisce nel fascino che ti ha generato e che, nell'aspettativa che ti ha creato, quando arrivano quei tre secondi poi, tra l'altro, di parte anche, sì, tra virgolette giocata. Cioè, ogni tiro avete qualcosa come un secondo e mezzo, a parte il rigore che forse è anche automatizzato e dopo un po' va da solo. Comunque questo è un gioco che permetteva di salvare su cassetta, in questo caso se non sbaglio, e permetteva di salvare e di andare avanti con la carriera, ovviamente, perché sennò dovevi ricominciare ogni volta da capo. E, dicevo, potevi essere sidurato dalla squadra, potevi andare in serie, nell'ultima serie, e quindi uscire dal calcio professionale e perdere, oppure potevi comprare le carte trasferimento che permettevano di avere un tentativo, di fare un tentativo di essere trasferito in un'altra squadra. Insomma, c'erano diverse cose, però dopo un sono po' diverse carte, insomma. Diverse carte da giocare, ma dopo un po', insomma, Duballe. Vabbè, sì, insomma, dai, io direi che anche questo gioco, che però lo abbiamo citato per rigore storico, e perché soprattutto aveva una bellissima colonna sonora che faceva io direi che la metterei. Mettiamo come sigla finale, dai, lo mettiamo per farti contento. E arriviamo dall'altra parte, invece, cioè mettendoci dalla parte del portiere, questo l'abbiamo citato prima con Gianluca. Esatto, abbiamo qualcosa di simile, cioè Peter Shilton Sandball Maradona, che prendeva per culo appunto il tocco di mano di Maradona dell'epoca, in cui invece dovevate interpretare Peter Shilton, quindi stare lì a parare i tiri degli avversari. Quindi avevate un concetto ribaltato, voi avevate le azioni da gol, ma eravate i portieri e dovevate parare, ovviamente. Non c'erano gol card, non c'era tutta la parte gestionale, immagino, però c'era questa cosa che dovete diventare. Qual è lo scopo di questo gioco? Beh, diciamo che il concetto, secondo me, a parte tutta, magari era molto meno articolato del gioco che abbiamo detto prima, il concetto rimane sempre quello. C'erano queste partite che venivano tra virgolette simulate, e poi probabilmente il risultato finale non so se era anche veramente dovuto a quello che tu facevi, ma poteva anche essere dove tu influivi, ovviamente, perché c'erano tutte queste azioni che venivano precalcolate, diciamo simulate dal computer, e tu eri lì in porta e dovevi semplicemente parare. Diciamo che la versione poi, tra l'altro, per 64 è leggermente meglio di quella per Spectrum, che era veramente già nel gioco orribile, era la più orribile. E c'erano poi il risultato finale, quindi probabilmente c'era. Ah, però c'era anche lo skill upgrading, vedi? C'era anche la possibilità di upgradare le skill del portiere. Cioè, un gioco del ruolo era. Addirittura. No, mamma mia. No, però vabbè, non lo so, stavo scherzando. Speriamo di no. Vabbè, lo trovate anche questo, insomma, tra le note dell'episodio, perché insomma abbiamo deciso che merita. Ma concludiamo questo kit su Google, caro Marco, così se ne andiamo da sto cazzo del frigorifero. Tanto bene. No, tu infatti rimani, io so io che me ne vado. Perché tu hai una chicca, tra l'altro, giochi di calcio sempre relative giochi a giochi di calcio Natale. Strategico di strategia, che si chiama Football Fortune. Ed è un gioco a cui ho giocato tantissimo. Era praticamente un Monopoly semidigitale. Pure questo, se ne Natale stavano fissa. Praticamente voi avevate questa bella confezione, aprivate la confezione del gioco, c'era una cassetta dove caricare il gioco, c'erano un mazzetto di carte che dovevate strappare, perché erano pre-tagliate, dovevate strappare, dove c'erano tutti i giocatori della Serie A e con su scritto un valore da 1 a 5. Quindi 5 erano i fenomeni tipo Baresi, tipo Roberto Baggio, e 1 erano le più pippe di Oddo, non so che cacchio ci stava. Perché Oddo, dai? Non so, quando c'era Baresi, Oddo non credo manco giocasse. No, vabbè, so, comunque, dai. Comunque non mi ricordo, insomma, chi. Ma sì, ma sti cazzi. Comunque dei giocatori di merda, c'erano le riserve che erano un po' jolly, potevi metterle dappertutto, e dovevi schierare la tua squadra, quindi avere il tuo 11 sul campo, più le riserve che in caso di infortuni dovevi far entrare in campo. Avevi un tabellone tipo Monopoli dove c'erano le caselle delle aste, le aste a metà prezzo, gli incidenti, gli infortuni, problemi societari e via dicendo, tipo come Monopoli. E poi avevi i segnalini che ovviamente dovevi utilizzare per muoverti sul tabellone, e i soldi finti ovviamente per simulare il calciomercato e anche lo status societario, perché se perdevi tutti i soldi andavi in bancarotta, arrivederci, grazie per te. Lo scopo era ovviamente vincere oppure restare l'ultimo in gioco, ma un gioco che poi andava avanti proprio molto molto a lungo. E il dado era elettronico, tu pigiavi un numero mi sembra il numero 9 sulla tastiera della console e tirava il dado, si vedeva c'era il dado che praticamente faceva vedere le facce sullo schermo, e poi tu muovevi il segnalino di conseguenza. Se capitavi sulla casella, il gioco a livello elettronico era solo il dado. No, aspetta. No, se okay. Capitavi sulla casella problemi societari, tu premevi l'apposito tasto che simulava il problema societario e ti dava fuori la carta. Perdi 200 milioni, okay. Oppure su problemi di formazione, perdi il tuo giocatore per 3 giornate, per infortuni e via dicendo. E di conseguenza tu praticamente utilizzavi. Cioè, questo era un gioco da tavolo che hanno detto facciamo finta che è un gioco per computer. Esatto. In più c'era la partita del campionato di Serie A, perché questo c'era il campionato di Serie A, ma in realtà c'erano anche altri campionati. Cioè, c'erano simulabili, sembra, quello inglese, francese, italiano, spagnolo. C'era un botto di squadre. Tant'è che facevi Coppa Italia, Coppa dei Campioni, Coppa delle Coppe. Coppa UEFA, cioè, fa tutte quante le coppe. Quindi sarebbe da riprendere questo gioco, non so, forse magari un giorno quando uscirò dalla fase quantistica lo riprenderemo. Vabbè, almeno il gioco possiamo farlo vedere una sì, volta. Sì, quello lo possiamo fotografarlo anche. Sì, sì, sì, anche. Sì. Anche se quantisticamente non so se c'ho ancora dentro lì o se si è degradato del tutto. Vabbè. Lasciamo stare la quantistica. Quindi dicevo, il gioco che funzionava così: tu prendevi il totale del reparto difesa, centrocampo e attacco, e in base ai totali tu inserivi questi numeri che uscivano fuori, quindi contando proprio il valore dei singoli giocatori, le inserivi nella schermata apposita prima di giocare. Cioè il gioco ti chiedeva qual è il totale dei punti forza della difesa, 25, e tu scrivi 25, poi dell'attacco 40, quindi potevi gabbare. E vabbè, si basava ovviamente sull'onestà delle persone, perché poi si giocava, era un multiplayer, si doveva giocare in più di uno. E quindi il computer poi forniva dei risultati in base a delle statistiche astruse, magiche, massoniche, che ti dicevano: ok, tu hai perso 3-0, poi hai vinto 5-1. E c'era questa simulazione di telescrivente, e si vedeva questa pagina del telescrivente con i bucherelli intorno che veniva su e faceva anche rune. Pensa, è un peccato, sarebbe proprio una grande occasione, perché su Facebook, su YouTube non vi è Football Fortunes, non c'è proprio traccia di questo gioco. E quindi vedi, se noi facessimo il video potremmo diventare migliori. È sicuro che aver cercato bene Football Fortunes. Fortunes. Vediamo, facciamo una cosa semi quasi in diretta. Sì, vabbè, non c'è nulla, no. E quindi io forse. Eccolo. Brian Clough Football 4. Brian Clough. Vabbè, ce n'è uno, dai. Cioè, ce n'è uno solo, insomma. Questo qua, Sì, sì. Tra l'altro postato 2 mesi fa, per cui insomma, ovviamente c'è un letto nel pensiero. Vedi, è colpa tua. Quante visualizzazioni ha fatto? Poi ci sono anche stranamente delle tavole di fumetto, non so cosa. Nessuna visualizzazione, ci sono macchine. Perché? Infatti questo è un fake. È un cialtrone. Però c'è la copertina, è quella originale. È sempre un cialtrone. Comunque in ogni caso era un gioco molto molto simpatico, perché poi dopo siccome tutto i Monopoli ci si scannava per comprare i giocatori, venderli, dare le fetecchie ai propri amici, insomma, era molto simpatico. Uno strategico mezzo elettronico e mezzo cartonato. Vabbè, quindi insomma, mandateci, niente, sempre lo stesso cialtrone di prima, che costa parola football fortunes, vedi, sono gli stessi, infatti. E niente, insomma, mandate delle mail minatorie a Marco Gualdi, in modo che insomma lui poi si decida un giorno a uscire dalla fase quantistica. Detto questo, io penso che me ne posso pure andare. Sei sicuro? Ma no, resta un altro po'. No, io guarda, c'ho da fare, perché guarda, se apri quel cassetto lì sotto. No, quale cassetto? I limoni. No, i limoni, che ce va? Che lo so, ma tanto per strada, vabbè, compagnia. Pronto, che c'ha il limone? No. Almeno lascia la porta aperta. Non è che no, sia la porta aperta domani, così poi dopo. Spegne la luce. No, ho capito, però poi consuma corrente, cioè tu te rendi conto. Ma poi via. Scusa, se ne avessi una vodka, dico, sai, uno rimane altri 10 minuti. Ma poi apro fuori la vodka. No, ma che c'hai la vodka? Se no già hai tirato fuori, stai accoglionando. Ciao, sto. Chiudo, eh. Oh, stai buono, eh. Ciao, ci vediamo alla prossima. Ciao. Il mio nome è Willy Wonka. Sono una sorta di mago e cioccolatiere. Scopri come Willy è diventato Wonka. Ho un'idea. Da dove cominciamo? Dal cioccolato, ovviamente. Dal regista di Paddington. È buono. E dai produttori di Harry Potter. Troppo buono. Tutte le cose belle a questo mondo sono cominciate con un sogno. Perciò tu tieniti stretto al tuo. È tempo di cambiare il mondo. Timothée Chalamet è Wonka. Dal 14 dicembre al cinema.